che non sta uscendo di radio. Nada, nada. Non si sente. Hola, mi ascolto, Marco, tu sei? Gianni, ma tu sei? Adesso si sente mai bassa e satura. Prova così, guarda, mi ascolto. Meglio, adesso non è satura, però può migliorare come volume. Ciao già. Mamma mia, sono tornato adesso con la spesa, con il vicino, mi sento quasi male, respiro corto, tutto sudato. Sta diventando una cosa patologica. E tu come in tilta già? Non so bene ancora, ma aspetta che mi chiamano per un po' là. Sto aspettando questo. Ah, per quella la cosa del femore, dell'osso, sì. Lo stesso, mamma. Comunque già radio 2 ti posso dare massimo, tra l'1 e il 2 è bassa sempre. Anzi, credo fosse Antonello Pomponio all'inizio. Guarda adesso. Di lusso, cosa hai toccato? Come sei spolverato, ho toccato il Mac Mini. L'ho passato completamente tutto. E adesso è un bijou, adesso va bene anche per i DX. Oh, io non ti sentivo da secoli e guarda, tra ieri e l'altro ieri è entrato Giulio. Io ieri non sono entrato, no? Negli ultimi 3 giorni è entrato Giulio, è entrato Gianfranco, è entrato Luca Del Monte, è entrato ieri, stavo ascoltando ma non mi sentivo bene. Sì, perché ieri c'era Giulio e Franco di Viale Sicilia. Insomma, piano piano si stanno riaffacciando le persone. E adesso escono come una gioca, come piove. Sono dentro casa e poi escono. Infatti io chiedevo ogni tanto, ma Gianni l'avete sentito come sta? Anche perché WhatsApp l'ho tolto, perché come è aggiornato Windows, come è aggiornato a Android 9, era instabile, si chiudeva da solo, no? Adesso ho aggiornato a Android 9.1 e vedrò se è più stabile o se le ragioni sono altre dell'instabilità, vedrò, devo reinstallarlo. Ma io a che tempo, Marco, non sentivo mai a nessuno, quindi non ho più accesso, per quello che non ho più accesso, perché non sentivo nessuno, a che tempo non c'era mai nessuno, quindi cosa ci andiamo a fare? E poi alla fine mi sono scocciata. Beh, giusto, io sono stato un mese, quasi un mese e mezzo che non parlavo più. 3 giorni fa ho sentito Giulio e allora ho attaccato bottone, perché accendevo raramente, perché accendendo anche non c'era nessuno, ma addirittura nemmeno sul 23 già. Spariti quelli del 23, spariti dal PMR addirittura, proprio tabula rasa. Non c'è continuità, ogni tanto ti viene la battaglia, ripeto, poi riprendo, è solo che bisogna essere più stabili nelle cose, anche perché io questo qui non sto bene, sono un po' sdraiato, quindi mi farebbe piacere parlare. Ma qualcuno si affaccerà, ma io ho acceso adesso, proprio adesso ho acceso. Ti dirò che mi pare 2 giorni fa c'era una propagazione strepitosa, sentivi chiaro dalla Venezia, in banda laterale, poi in tutta Europa c'era, però l'apertura per l'Italia era solo per Venezia e dintorni, no? Per esempio il Sud Italia non arrivava, perché loro stavano parlando con gente della Sicilia, non... vabbè. Chi altro c'è qua all'ascolto? Giulio, ci sei? Siciliani, Marco, ci sentiamo sempre, quindi ce l'ho stufata. Bisogna cambiare. Ogni tanto sai che stava entrando ma ogni tanto lo sentiamo anche Francesco da Ogilo, perché anche lui posta a casa, non va al mare, capito? E allora, solo che anche lui si è accorto che non vedi nessuno. E comunque c'è ancora troppo caldo già, io non sto andando al mare perché non me la sento e ne ho veramente le scatole piene di questo caldo. Non me ne frega niente l'estate, voglio che vengano piogge, che venga vento, freddo, ne ho le tasche piene l'estate già. E poi quando non vuoi andare al mare, quella è la ragione. Io già me l'avrei fatta qua volentieri, ma non posso farlo. Uno che con i dolori che c'è, se mi faccio il bagno mi aumentano. Deve essere una porta di occhi sempre, prendo l'occhi, se no non mi passano i dolori. Però proprio un po' in casa devo prendere i luci e usare le scampelle, se no buia. Eia. Invece mamma usa brufen, no, ibuprofene mi pare. E poco le fa comunque perché sono compromessi un po' le gambe. Infatti adesso vediamo a settembre se ci contattano oppure li contattiamo noi. Tanto agosto erano tutti in ferie. Poi nei negozi è una cosa allucinante, cioè sono andato alla lì a Cobec di Viale Trento, cioè fuori ancora 29 gradi, io già ero sudaticcio, entro dentro un freddo terrificante, da venirti una congestione o una meralgia pure. E poi vabbè, dopo un po' ti abito, poi esci fuori e senti il caldo soffocante rispetto a dentro, no? E quindi c'ho la voce afona perché anche con questi ventilatori mi sto rovinando. Perché io anche da sudato un po' il ventilatore ho bisogno di sentirlo e mi prende la gola, capito? Oh, io attacco l'aria condizionata, arrivato alla 73, però la spengo. Beh, lo sai, il cane con la cispa dal corpo d'aria. E più si stava grattando le orecchie, se non si è venuto butta quattro tinte pure dal fresco. Io lo stesso, quando di gola, questo non fa attaccare, muove poco di fa. Eia. Poi chi altro ho sentito? Ho sentito Luigi Vulcano, è entrato mi pare due volte, no? Sì, stava preparando baracchini, no? Insomma, qualcuno timidamente si è affacciato a un radio, dai. Perché all'estate manco io non voglio parlare, francamente. Comunque io al mare un po' sono andato, qualche giorno, poi ho avuto questo calo fisico, proprio sempre più stanco che mai, poi soffro il caldo più che mai, insomma, un rottame, dai, già lo sai, no, come sono io. Esagerato. E io quando vado, non posso dire che vado a passeggiare, vado, mi scendo davanti al mare. Sto seduto, mi prendo un po' d'aria buona, a volte si avvicina qualcuno, ci mettiamo a chiacchierare, cose. E niente, mi passa il tempo così, però a farmi proprio il bagno, passeggiare non posso, perché dopo due passi che faccio mi si stacca la gamba, mi fa male e non riesco a camminare. E quindi mi devo fermare, sempre non fa manco, ma lasciamo perdere, manco faccio una passeggiata. Me l'immagino, già sono sedentario io, poi in realtà sai quando è bello il mare già, all'inizio dell'estate, quando ci sono quattro gatti, per esempio aprile, per esempio maggio se permette, giugno, all'inizio, quando proprio trovi quattro gatti, poi però diventa un carnaio, e l'agosto è un... A seconda di dove vai proprio c'hai gli asciugamani a 10 cm dal tuo. Così è anche uno schifo. Per esempio ho visto una foto di ieri della Nuova Sardegna della Pelosa, no? Ed erano proprio gli ombrelloni tutti attaccati, ma vai, così non mi piace. Non mi va. Poi mettono anche roba in mezzo, cioè non riesci arrivare all'acqua o tornare indietro, poi metto un asciugamano in mezzo, roba buzzazza. Io la roba la tengo sempre bella raggruppata, c'è ombrellone, sedia, spiaggina, non che butto un asciugamano a destra, un coso a manca, no. Non è corretto anche fare così. Poi magari glielo calpesti, no? Anche senza volere ti dicono roba. E allora la roba, tenetevela bella raggruppata invece di fare il campo nomadi. Si è perduto tutto lo spazio a posto. Ma anche a settembre, Marco, dovrebbe essere bello, là. C'è poca gente. Io a settembre era invece che andavo a pescare. Era quello che preferivo perché le orate fanno fare le uova e ci sono le orate grosse. Praticamente trovavo poca gente, stavi tranquillo, non trovavamo le scale. Aspetta, chi vuole entrare avanti? No, sembrava uno spagnolo credo, sotto naturalmente. Sì, era forte però, sembrava qua. Ha chiesto mio hermano che va a spiciare la sardina adelante. Non è parlo. E poco fa c'erano i francesi su 10, ma ce n'avevo voglia di chiamare, se non mi avviso detto che non c'era un radio, che qua mi segnalava che stavo uscendo. Ti indicava? No, io credo all'inizio che fosse Pomponio che non usciva di radio. Poi ho visto il segnale ed era troppo forte per essere Pomponio. Tu adesso sei quasi 9.25 qua. Sì, quasi 9.25, sempre per con questo Smith, no, devo andare un po' a interpretarlo. Comunque l'altro ieri, sì, propagazione, altro che adesso, era proprio un bijou, strepitosa, per il periodo che era strepitosa. Però un giorno isolato era, un giorno di delirio, poi, e uno ha fatto la battuta a un veneto, no? Parlando come dice, ma come è caduto il governo è arrivata la propagazione? Ma lo spiega il ma? Sì, 9.30, per esempio Claudio arrivava a 9.30 da su, da Carbonazzi, 9.30, che poi sai, io non so se tu abbia presente il più di questo smitter, no? Cioè lo smitter di questo apparato, praticamente sul più, esattamente sul più sei 9.25, poco dopo il più, cioè mezzo millimetro oltre sei 9.30. Mezzo millimetro sotto il più 6.9.9.20, almeno così lo interpreto io ricordando grosso modo il K, ma non sono controlli sicuri questi, capito già. E adesso come sono qua? 1, 2, 3, prova. Allora, prima eri quasi 9.25, adesso sei abbondante 9.25, ma non è 9.30, non è 9.30. Ma non è possibile, allora. Dovrebbe darmi almeno da 9.25 a 9.35, 9.40, non è passato. Io magari non è giusto. Ma sai cos'è, questo anche a parte che 9 più 30 non va oltre, lo sai, anche se vieni sotto casa non va oltre, sì magari va oltre appena appena, ma non baracchini con Smitter molto relativi, dai. Non è più comprato baracchini? No, per carità, se stavo pensando dopo questa assenza di togliene tutto. Qua stavo per liberare questo portatelefono, no, togliere il baracchino, ricevitore, alimentatori, togliere proprio questo piccolo mobilettino e liberare il tutto, perché tanto qua rimane a pigliare polvere, non lo sto nemmeno coprendo, lo sai, è tutto impolverato. E poi ho detto vabbè, togliere no, bene o male anche il ricevitore ogni tanto lo uso, benché non ci sia... anche lì no. Il radiatore anche in chiaro ben poco centimi, da quando c'è la ventola digitale anche lì. Poi ma la mia ricevitore ce l'ho per buttare via, non senti più nulla, no, non c'è più niente. Tra quando la mia mattone io poi sentito, ma poi ne senti altro. E vabbè, anche io avevo la stessa idea, stavo per eliminare tutto. sei riuscito a costruire una notte, è andato qua. Ma poi ho detto, magari poi d'inverno rientra, non questo, quell'altro, che me lo fa fare, poi mi tocca ricomprare il gatto, no, no, lascia perdere. Infatti c'è il rischio che qualcuno possa fare così, togliere o addirittura vendere gli apparati o togliere l'antenna. Mi ricordo così faceva KT2, quando si buriava toglieva l'antenna, addirittura non l'aveva fatta a pezzi, a pezzettini proprio, poi aveva rimesso tutto, poi sparito di nuovo, insomma alla fine no. Bisogna essere un po' più coerenti, da lasciare tutto com'è, l'antenna già sta bene su, tanto se deve scendere già ne scende da sola col vento che verrà in inverno, e le radio finché durano già. Poi e adesso mi sa che attendo di durare, perché sono da molto senza usare, no, per poi da questo inverno poi andato via Claudio. Ci siamo sentiti al telefono, no, tramite WhatsApp ci siamo sentiti, perché è morta la moglie di Vittorio Lambert, glielo ho detto, per saperlo, perché lui lo conoscete. Ci siamo sentiti tramite WhatsApp, ma non lo so che entrare. No, secondo me è per il caldo, poi forse si sia trasferito in campagna, anzi sicuramente si è trasferito in campagna con la piscina, altro che Sassari. Non si è staccato tutto, c'è più da solo qualche baracchinetto così e basta, per questo va vero. Vabbè, Lucariello. Poi Lucrezia. È vero, sì. Luca, ma oggi sei nelle stesse condizioni di ieri? Cosa già? Non capisco niente, ma sono un po' lecco. Cosa hai detto? Ho detto, cos'è questo tiramisù dentro al forno? Non ci credi, sarebbe abbottolito. Perché tiramisù in forno si mette in frigorifero, non in forno? Maria me l'ha detto, dopo si metteva in frigo. Ma vai, e se ne posso in forno? Allora, si sta preparando un dolce, ci sono messo nel fornetto e si è carbonizzato. Ma dai, non ci credo. Perché non ci credere? Ci ho buttato sotto e ti avrei mandato la foto. Io pensavo che fosse una tua battuta, capito? Infatti stavo per scrivere, ti ho detto, è una battuta, magari piace. Se la mi sciumica si mette in forno, si mette in frigorifero perché non si rifredda. Vabbè. Parlando in due. Prova. Oh. Mi senti? Sì. Ma non sei a casa da me? No. Ma le sto arrivando. Ma stai arrivando a poi? Vabbè. No, avete 5 già. E qua non più bene perché siamo in schiocco. Arrivi bene. Non so, da Marco. 8:30. Luca, ma sei nelle stesse condizioni di ieri? Yes. Non ci capiamo qua. Cioè, sì, quelle condizioni di ieri, sì, siamo stessa antenna, stesso baracchino, stesso microfono, sì. No, perché ieri ero all'ascolto ed eri Santiago 5. Santiago 5, oggi sei 8:30. Ti ho detto, la differenza è notevole. Ma la stazionaria avevi oppure? Marco, cosa mi sono? Cioè, mi sono rotto anche il rosmetro. Stavo tarando il coso, ma devo l'agro che era tutto maritosto. L'ho aperto e proprio se è da buttare. La KP201. L'ho smontato, qualche pezzo buono già c'è. Adesso appena faccio su qualche solghino me lo compro uno. Se non lo spendere molto però. Purtroppo ZG ce l'ho anch'io, ma era, per carità, robaccia. Purtroppo se vuoi smettere serio devi pagare un centinaio di euro, credo almeno. A me piaceva il Daiwa, però 130-140 euro costa. Io ce l'ho capo in 1000, va benissimo. No, 100 euro. Aspetta un po' se trovo quella seconda mano. Mi, il digitale già. E non senti altro. Ce li puoi buttare quegli apparecchi, non ti servono più, e non ti devi fare. Nulla. Nulla, aspetta che sto facendo rientro. Ecco. Vabbè, dai, aspetta che accendo il ventilatore a soffitto un attimo. C'è un altro contatto, Marco, a telecomando, il ventilatore è bello, Non so che si chiamava sulla parte verso il padre. Sì, diciamo che sono andato poi dopo un mese, circa un mese e mezzo, e hanno messo a 20 euro in meno. Prima ho pagato 50, qua, 59, 99, vabbè 50, adesso lo stiamo prendendo a 29. 99, facciamo 30, là. Bello, già a tre velocità, abbastanza silenzioso, molto, cioè arieggia bene, poi c'è l'autospegnimento, poi c'è tre posizioni di ventilazione, ma bello veramente, l'ultimo, poi ripeto, da lontano, sai, se c'era attaccato lontano ti dà stessa, che era la spina, invece così, da lontano tre cose, pacco, lo spegni. Infatti molte volte è capitato, una notte avevo freddo, lo spegnevo il telecomando, utilissimo, bello, veramente bello. E dove l'hai preso? Cioè lì da Decathlon, da Carrefour, ci sono ancora 29,99, ma bello già, Lo sai cos'è? Che dopo quando finisce la stagione non so come mi pulito, non c'è un posto, che dopo incombrato insomma. Io ce l'aria condizionata, non mi fa di male, cioè se l'attacco, poi la spengo e mi fa di male una stessa, mi fa cispa, mal di gola. Gianni, lo smonti, io l'ho smontato, ho rimesso di volta la scatola, e mica la mia occupa spazio, non è come se non ce l'abbia, è facilissimo la piazza, non è ci sono vite, tutta in cazzo, Emmy. È una meraviglia quel coso, proprio veramente, guarda, ho preso, sì, però se aspettavo mai qualche mese lo pagavo 20 euro in meno, vabbè, pazienza, ormai l'ho comprato, 2 anni di garanzia, proprio bello, poi c'ha la funzione bambini, funziona così, va, cioè fa, poi si ferma, rallenta, poi se passi davanti si spegne, allucinato, è veramente bello. Tecnologici da molti diciamo di sì, poi sono quelle, cioè quello che ha la pala in alluminio sicuramente, una lega sicuramente un alluminio, non so cosa sia, se c'ha più, ne ha di più, se c'ha ne ha 3, ne ha 5, 6, quello fa ancora più cose, più aria, però quello che ho io ne ha 5 pale hanno, e praticamente guarda, una ventilazione ultima, bello, proprio bello. Ma come in cucina ci ha messo quella lampadaria con l'elica, che sognava in tutti i fatti, ma che se ne fa di male, ma niente, chissà cosa gira a poco. No, guarda, vabbè, se ti buttano la polvere addosso, vabbè, anche il ventilatore, ma alla fine io il mio l'ho smontato, tutto pulito, non era un po' sporco molto, sì, un po' di polvere purtroppo si attacca, quello di mamma era pieno, vedi, quello di mamma, sì, mamma lo tiene tutto il giorno attaccato, ma pieno, poi l'ho tutto smontato, l'ho tutto pulito, adesso è a posto, poi c'è l'altro, diciamo mamma ne ha due, e uno li basta, lei ne vuole due, capite, se no non ce la fa a ventilarla, e niente. Già l'ho conservato, se metto già la scatola, infatti io non me l'hai data, è facilissimo da smontare, veramente guarda, ho fatto un affare. Allora, siccome devo prendere io, se le conosci, quelle, quella doppia presa che ha il timer, io volevo prendere quella, ma impostarla, poi si spegneva automaticamente, ed ho fissato con questa presa col timer, poi ho visto quello, ho preso quello, qua ero tra i pinti perché veramente è l'ultimo prodotto. E buona sapessi, K. Oh, qua ancora c'è caldo, la notte in casa faccio certe sudate, avvicinate, ma c'è anche tutta attaccata alle lenzuole, lui. Più di una notte mi sono andato e mi sono sciacquato, perché non riuscivo a dormire, mi giravo da una parte all'altra. Io sto dormendo a finestra spalancata, di notte. perché non entra qualcuno e mi violenta? E chi ti violenta? Perché te ne ho tre o quattro qua dentro, non è mai entrato nessuno. Anche perché certo devo fare i conti con taci. Qua già mi difendono le gatte, mi. Allora sì, mi. Vabbè, ma sai così, io sono sulla strada. No. Una volta ho detto all'amico Marrano che non riesce a entrare nella finestra, no, è un piano rialzato. È riuscito a entrare in casa. Ho detto prova. Non so come ha fatto, vabbè, lui c'ha anche potenza muscolare. Si è aggrappato all'alcol, insomma. Caspita, l'uomo ragno, Maria. Sì, ci sono quelli che fanno come casa cerchiamo, che saltano, quelli che saltano da un palazzo all'altro, quelli sono buone. Ah, il parkour, caspita. Certi però vanno oltre il limite, perché ogni tanto l'amore qualcuno, cioè vanno sul bordo dei palazzi, saltando dal bordo al bordo, da un palazzo all'altro. E mi pare recentemente uno è volato giù, gli è mancata la presa e si è fatto non so quante decine di piani di caduta libera. L'aveva trovato su circa a terra. Ma sono buono, io quando mi vedo mi spavento, anche su internet, non riesco a capire come faccia una persona a fare certe cose, camminare sopra la parete, cazzo, una cosa allucinante. Ci vuole una bella preparazione fisica, poi anche loro si prenderanno le loro belle strampate, mi da principianti. E quello è bello per fare il ladro, mi fare entrare nei terrazzini. E poi se ti serve la polizia, chi ti prende? Sembrano delle scimmie, hai visto come saltano? Vabbè. E ci sono anche le ragazze di vicino a casa che lo fanno, dove c'è la chiesa dei Mormoni, saltano, fanno, camminano sul muro, nella parete, è una cosa allucinante. Tu li vedi dopo, non la ricco se camminano sopra la parete del muro come se fossero ragazzi. Mormoni, mi ricordo quando ero un po' piccolo, abbiamo partecipato così a questa comunità mormone, no? Ma altro che chiesa cattolica, non mi ero mai divertito così tanto. Perché sì, ogni tanto pregano, poi hanno fatto, che ne so, recite, scenette, caccia al tesoro, barzellette, va di tutto di più. Altro che andare in chiesa, mamma mia. E purtroppo è un altro modo di vedere la religione, non lo so. E poi dovevi vedere all'epoca le mormonesse, tutte bionde o con i capelli rossi, tutte ben vestite, no, perché lì ci tengono, no? Beh, lo vedo perché io ci sono di fronte a casa. Ce ne sono anche qua, quelle mormonesse di 19 anni, quelle che vengono, che sono evangeliste, là, praticamente. Quelle lì non si possono né fidanzare né sposare, sino a quando hanno fatto la missione. Sono missionari, là, vengono dall'America. È un popolo americano, infatti la religione mormone è nata lì in America. Ma ci sono diversi templi anche qua in Italia, ce n'è una a Roma che è enorme, un tempio dei mormoni. Ma anche qua fanno tante cose, fanno i pranzi per la gente bisognosa, la domenica, ogni mormone cucina una cosa e vanno anche dei greti a mangiare, una ragazza negra col bambino piccolo, insomma si danno da fare, dai, fanno tante cose. Infatti la mia dottoressa è mormona, no, me l'ha detto, venga al pranzo che la invito io, venga al pranzo, cosa ci vado a fare? Poi non mi piace, dici cose, lascia perdere, io oramai la religione cattolica mi ha insegnato e quella lì mi tengo e credo in quella. Comunque i mormoni sono più aperti, sono più spiritosi, però testimoni di Geova, mamma mia, no, è un altro mondo. Ma infatti chi glielo fa fare ai mormoni americani a venire qua, in mezzo agli Zulu, per dire, no, già, riprendi Luca, dai, che devo mettere qualcosa sul fuoco, dai. Sì, aia. Già oggi ho fatto un melone alla fine del mondo, buono, dolce, dolce, dolce che il miele, va, buono. Me l'ho già mangiato, pesava 4 kg mi sa, la metà l'ho già mangiata. Arrestato? L'ho visto su Facebook che l'ha messo, è scritto dalla paretta sembra buono. Gianni, buono è dire poco, uno spettacolo, non ho fatto manco molto, buono, buono quello, infatti il tipo mi ha detto va, io te lo faccio anche assaggiare. Mi ha fatto un triangolino con un coltello. Apposta, te l'avevo fa schifo, gli ho detto, ma sta scherzando, no, va scherzando, vedi dove è buonissimo. Buono, e mi sa che uno dei primi è, mi sa che il secondo melone anzi che mangio buono. Però questo qua è uno dei migliori, e ne ho comprato, vedi. Luca, era retato giallo o verde? Verde, verde di Valedonia. Ah, perché? Se vuoi, devi andare lì, alla fine di Via Grazia del Re, dove c'è la rotatoria che ti porta per andare a San Francesco, e si chiama, non ci chiamo questa frutta e verdura, c'ho un nome, se non mi ricordo. Il Moscardino, non l'ho fatto io. Il Moscardino, bravo, il Moscardino, sì, proprio da lui. Guardi, l'ho preso io il melone, ho trovato qua buono, infatti ho dato un paio di conto, visto che era bello pesante. Sì, va, prendi gli occhi chiusi che è buonissimo. Guarda, io mi sto aperto, faccio assaggiare, guarda che è buonissimo, infatti è qua. E dopo c'è un'altra sussa. Io perché l'ho preso una buia, me la sono mangiata tutta da solo, non farti più a farmi, si mi va di animali. Anche ce l'abbiamo tutta salita. No, ho controllato, allora praticamente ho detto, per non tenere la buccia della mondetta che fa sempre quelli qua, ho detto adesso la faccio a quadratini e la metto in un contenitore, così almeno quando ne ho voglia la prendo, tra me ho detto così. Preso tutta la buccia, ce l'ho buttata via subito, in modo che non faccia la puzza. E poi sono salito a casa, ho cominciato a gustarla, dopo me la sono buttata davanti, una due dietro l'altra me la sono mangiata. Ma a me se è una cosa è buona, Bibbia, infatti avevo preso uno prima, infatti quello se lo sta mangiando la mia 25, ma non mi piace. Questo qua è, guarda, uno spettacolo, veramente buono, dolce, dolce, dolce, anche troppo. Qua c'era mio cognato che mi piantava nella nuvola, c'aveva il terreno, era la qualità, io meloni così buoni non ne ho mai mangiato, cacerò zuccherini proprio, cioè, di quelli proprio a massa diabetico. Proprio c'è un palo dolce e allucinante, sembra un palo usurio. A me piace una cosa buona, poi la frutta io. Tipo faccio un esempio, il padre di Marina ha un albero di fichi. Quelli bianchi sono buoni, ma quelli neri sono non dolci di più, miele, buoni, buoni, ma buoni veramente. Anche io per la frutta e per la verdura vado matto, che frutta ne posso mangiare molto poca. Io posso mangiare una a pasta, ma io una a pasta, quando prendo quelle fresche gallette, quelle schiacciate, e come fa a mangiarne una? Cazzo, sono così buone. Infatti faccio un esempio, in salata mi faccio la carota alla Juliette, iceberg, mi prende se c'è, ci metto anche la polpa di granchio, poi ci metto le olive, ma buona rita, eh. No, io le salate me la faccio pomodori, cipolle, citrioli, e va bene così, a me piace così di salata, qualche volta citrioli, ma non sempre, però pomodori, cipolle sempre, sempre, sempre, sempre, mi piace un bel così. Non lo posso immaginare. Vabbè, a me mi rimane sullo stomaco, i citrioli non li mangio proprio perché non mi piacciono. Niente, poi io la faccio semplice, là. Cipolla lo stesso, cipolline magari, quindi invece faccetto. Ah no, cipolle normali, io digerisco tutto, non ho problemi di digestione. Digerisco tutto pure un vero. Avanti, ma. Io una cosa del genere digerisco abbastanza, però in quest'ultimo periodo c'ho come un senso di pienezza, come di nausea, e non ho capito perché, se questo farmaco che ho smesso e non dovevo smetterlo, è un ormone, mi ha detto mia zia, male, male, quello va preso sempre. Ed è già un mesetto che non le prendo, quindi al più presto devo andare a farmelo dare all'ufficio farmacia. Magari è quello, che lo sa, magari non c'entra nulla. Sì, una situazione così di disgusto allo stomaco, mi. Allora, io non avevo mai sofferto di bruciore allo stomaco. C'era un periodo che non potevo mangiare né bere birra, perché sennò mi bruciava come il fuoco. E da che cosa era? Una pastiglia che prendevo, ci voleva un gastroprotettore, sennò questa pastiglia ti crea questo bruciore di stomaco, ma da morire mi matto. Oramai io sono un trucco, quando c'ho bruciore di stomaco, adesso grazie a Dio non me ne viene più, però se dovessi avere bruciore di stomaco passa bene un po' di latte e te lo passa immediatamente. Esatto, il latte freddo. Io quando c'ho bruciore lo stesso bevo un po' di latte dal frigo e poi siccome nello stomaco si coagulano, fa, adesso non te lo so spiegare, me l'ha spiegata mia zia, no, che medico, fa da tampone per il bruciore, boh, una cosa del genere. Porta una parete nello stomaco, praticamente lo isola dagli acidi delle medicine. Sì, sì, qualcosa del genere. Io melone invece, siccome certe volte ci capitano meloni cattivi, quelli verdi, no? Devi trovare il venditore giusto, il venditore onesto, insomma, che te lo fa assaggiare anche, vedi? Qua, oh, questo che c'è qua, in via Trento, un cacchio che ti fa assaggiare. Noi stavamo prendendo sempre il melone lettato perché lo troviamo sempre dolce, però avrei voluto di quei meloni verdi, no, sardi. Bisogna trovare il venditore buono. Comunque Luca ha detto, salendo via Grazia Deledda alla rotatoria per San Francesco, così è? Sì, non c'è da sbagliare, è l'ultima rotatoria, sì, l'ultima, che ti porta? Dimmi. Dicendo. L'ultima, tra l'altro mi sono a destra, Marco, che poi ti porta in via, che via? In via, insomma, lo Stradone, io chiamo lo Stradone. Via di San Francesco, eccetera, eccetera. E praticamente alla fine di lei, l'ultimo negozio di Grazia Deledda, tu devi fare questa via Grazia Deledda, alla fine c'è questo negozio che rimane in angolo ed è quello dove compro la frutta e la verdura io. Esattamente. Aspetta, domanda. Ma non è per caso che lì prima c'era un negozio di scampoli, di tessuti, copridivano, quella roba lì? Questo non lo so dire, ma io l'ho sempre conosciuto come uno scartino. Vendono pesce sul gelato, perette di formaggio, salsiccia, pane, tutto quanto. Perché ricordo questo particolare, oh, sempre che sia via Grazia Deledda, proprio l'ultima rotatoria, sulla destra, faceva angolo, c'era un negozio di tessuti, di scampoli, di, tu l'hai detto, copridivani, tutta roba del genere, roba per foderare, per tappezzare divani, poltrone, e mi pare che sia sparito però, è stato sostituito, ti parlo di 20 anni fa, probabilmente ha cambiato attività lì. Qua nemmeno io non so se c'era questo negozio, io lo conosco sempre come Moscardino, mi sa che lì, mi sa, se non erro, qualche tempo fa, ma tanti anni fa, c'era una paletteria. Poi sai cos'è Lu, quella non è zona mia, quindi potrei sbagliarmi io anche, magari non è nemmeno Grazia Deledda quella che... Però in teoria dovrebbe essere quella. Va bene, dai che sto controllando la pizza, riprendi Gianni. Ma tra poco lì dietro di Luca, con un benvenuto dei ragazzi sono usciti, che se l'hanno buttato gli altri, tutto quanto. E sarà pure andata così, a poco dopo quali non me le avevi in macchina, se no se l'hanno mattata. Cosa, non ho capito, già c'è troppo ecco, già ammazzo un po', cavolo. Dimmi se è questo. Prova. Guarda. Fai un passaggio, stavi dicendo, vai, ripeti. Che lì come giro per andare nello Stradone, adesso non mi viene il nome della via, ci sono usciti due ragazzi con un li hanno buttati tutti i cespugli, se tu guardi sono ancora tutti in terra, ci hanno sbarrato la macchina, sono quasi andati nell'altra corsia, manco mai non vedono le macchine in passetto. Già lo so, un BMW, ragazzi, già lo so. E hanno preso la curva a manetta, se ci sto fuori strada. Cazzo, guarda. Ma perché danno le macchine così grosse a questi ragazzini, cazzo? Sono esaltati, perché le comprano a seconda mano, 5.000 euro, c'è una macchina che sono morti, che camminano, anche se sono macchine che hanno una certa età, camminano lo stesso. Infatti, lo so. Danno queste macchine potenti, poi sono le prime armi, ma per carità. Uno che ha esperienza, magari, come tu, io alla fine ho l'esperienza, ce l'ho 20 anni e non ce l'ho 2 giorni la patente. Io non me ne ammetto più che anni sono passati, non c'avevo 18 anni, infatti lo conto, meglio 60. Oh, per curiosità, incidenti, come siete messi? In che senso? Per dire, io ho preso la patente della macchina nel 90, mai un incidente, e ne ho evitati pure, gente che usciva con l'orcor rosso, che ho inchiodato, sono riuscito a evitare, capito? Invece purtroppo molti neopatentati sono teste matte, ogni tanto si tirano un paolo a una rotatoria, capito? Magari sono quelli che si sono comprati la patente, ti ricordi anche che io ero una schiappa, io non avevo mai guidato una macchina perché nonno non me ne faceva guidare, eppure a scuola guida ho imparato, la teoria l'ho imparata senza studiare, bastava seguire le lezioni e quello lo spiegava veramente bene. Poi vabbè, ho fatto le lezioni di guida, ero una schiappa all'inizio, però poi grazie a Dio ho passato al primo orale e pratica. Io non credevo di poter prendere la patente, poi si è rivelata una fesseria e per fortuna nessun incidente, invece in moto mi hanno sempre buttato gli altri. Io in macchina ne ho avuto incidenti, ma non per colpa mia una volta solo e basta. Poi tutte le altre volte o mi hanno tamponato o mi hanno strisciato di lato o toccato facendo retromarcia, guarda. Sono stato sempre sfigato, però grazie a Dio, per colpa mia una volta solo sono su di Bidriazzi. Questo qui ha girato di colpo, io stavo camminando troppo, non ce l'ho fatta, ho frenato ma mi si è fatta la rotta quadrata. Ho fatto 200 metri di frenata. È un casino la macchina, la conosci. Io per esempio mi sono fatto la mano con la macchina della mia 25, capito? La conosco abbastanza bene, solo che purtroppo, cioè, devi dare lì lo stesso, non è che puoi fare chissà che cosa. Ce l'ho fatta scendere anche a 170, scendendo a Volpiano. Oru, io ti dico una cosa, che quando uno acquista troppa sicurezza è la volta che si barra la macchina, perché quando sei troppo sicuro guidando non devi essere mai sicuro guidando, perché da un momento all'altro ti può capitare un ostacolo. A me per dire in moto mi è capitato a 140 un cane, ho fatto la curva, era il cane del fratello di Benito, che tra l'altro è uscito da campagna, ha saltato il muretto che ha attraversato, se frenavo mi ammattavo. L'ho deviato, l'ho scartato, ma per un pelo non l'ho preso. Purtroppo, ma non ce l'hai più la moto già? No, l'ho venduta la moto. L'ho venduta, quando mi ho preso la macchina mi ho venduto la moto. Come stavo quel tipo non ce l'ha più la macchina che gli hai venduto tu, quel ragazzo che guarda l'ambulanza. Ah, non ce l'ha più? No, ne ho un'altra. E lì ci sarà fermata. Non penso però. E quella lì andava bene, camminava come il primo giorno che l'ho comprata, faceva 180 km orari, solo che c'era un difetto e io gliel'avevo detto, io l'avevo venduto non a quello lì, l'ho venduta a Gianfranco, un amico mio, poi lui siccome la sicurezza era troppo alta l'ha venduta a questo qua. Perché lui era la prima assicurazione, doveva pagare 1500 euro di assicurazione, non gli conveniva, 1200 euro, non gli conveniva, capito? L'ha venduta a questo suo amico che era già assicurato con un'altra macchina e cose, gliel'ha venduta a lui. Poi non so se lui l'ha rivenduta e magari si ha preso quella, capito? Sicuramente quando se l'avrà venduta. E la moto, molto l'hai data già. La moto, 2300 euro. E vabbè, la fiammante con la moto. Ma ci aveva 10-11 anni, ma la tenevi conto quanti chilometri? Adesso non me lo ricordo, mi pare che ne aveva 30.000, una cosa, 35.000, una cosa del genere. E poi tu già la tenevi cotta, sempre pulita, come l'altra macchina, come la macchina che avevi prima, diciamo, dai. La tenevi bene, sempre profumata. E vabbè. Ma ripreso il lavoro hai già, sì. No, non riprendo più, non ci vado più a lavorare. Allora te ne vai in cosa? In pensione? Sì, adesso ho fatto la domanda. Mi dovrebbero dare l'inabilità al lavoro. Ah, per il problema che hai, vabbè, già lì hai contributi comunque. 38 anni io. Ti male di bocco. Vabbè, se uno non ce la fa, non ce la fa, inutile. E allora ti godi anche la pensione. E adesso intanto mi devono operare alla gamba. A settembre, i primi di settembre mi chiamano per operare. E una cosa è fatta. E poi il resto, vabbè, luce l'ha guarita, perché ho trovato la dottoressa Doc e me l'ha fatta guarire in 2 settimane. Ma detto lì, a me mi hanno cambiato la dottoressa, la mia è andata in pensione. E ne sono entrate altre due, una c'è la mattina e una la sera, io ne ho preso una di queste due. Questa qua, gli ho spiegato che avevo quest'uce, era nel piede, che non guariva mai. Ha detto, ma quanti mesi ce l'ha? Mesi? No, io ce l'ho 4 anni. No, quest'uce la deve guarire. Ha preso, mi ha dato questa medicina, che anche in 2 settimane mi si è chiusa. Ah, non c'è più zoppo? Zoppo non solo per l'ucera, solo perché ho la testa del femore che praticamente ha perso la cartilagine, si è consumata e quindi mi devono mettere la protesi nel femore. Ah, ho capito. Comunque, per quanto riguarda quel famoso buco, ti è sanato. Cava gara. Ah, sono contento, dai, almeno. Te di qualche anno così, 4 anni. Cavolo. Vabbè. Vabbè, tanto tu già che ti mancava poco andare in pensione, no? Prossimo anno. Ecco, hai fatto un bimbo. Già andare, dai, almeno. Come si dice, almeno te la godi, vai. Sì, la riprendi Marco, secco. Mi aspetto 10 minuti, arrivo subito. Marco, sì. Sì. Ho messo quella schifo di pizza in coso, mi stava proprio disfacendo in mano. Carità. E Luca è andato via. No, stava per dormire, stava facendo roba. Cosa ti stavo dicendo? Perché tu pizza sai fare? Naturalmente no, surgelate. No, non mi piace. Preferisco spendere qualcosa e prendere la pizzeria. Lo so, ma sai, per il pranzo magari sono pure aperte le pizzerie mie. Tanto qua non c'è una voglia di cucinare, quindi né lei né io, quindi si è tolta roba pronta. Tutto ho detto, io sono tutta l'estate in mutande a casa, tutta l'estate non sopporto nemmeno i pantaloncini, né maglietta, né mutande. Quando suono dice, se suonano come fai? Se suonano aspettano, mi metto i pantaloncini, la maglietta, se è una cosa importante aspetteranno, se no se ne vadano. Stamattina sono venuti a portarmi un pacco alle 9, io mi stavo lavando e mi ha fatto il corriere e ho detto dovevo aspettare un attimo perché mi stavo lavando, mi asciugo e mi vesto. Cazzo, sono sceso in ascensore infilandomi la maglietta, ma dimmi tu se devo... E pensavo che vieni a te più tardi, no, e chi te l'ha detto lì? Noi veniamo come ci capita. Ho comprato un orologio, un bel orologio. Ehi. Sì, i corrieri mi pare vengano dalle 9 fino alle 6:30 di sera. Cioè loro tutto quell'orario e possono venire addirittura una volta, non so se è venuto prima delle 9, mi pare alle 8:30. Forse anche dalle 8 partono le consegne. Dalle 8, fate un... vabbè, qua di solito per questa zona vengono nel pomeriggio comunque, sai. Presumo che partano dalle parti vicine alla sede e poi si fanno tutto a salire. Anche a me di solito me la portavano verso l'una, alle 2, ma mai alle 9 di mattina. Invece GLS l'ha portato stamattina, presto. mi sono preso un Echo Drive per quello che non hanno bisogno manco di batteria, quelli che caricano con la luce del sole. Ah, Solari, oh, Echo Drive. Io ricordo addirittura che c'era un orologio che si caricava scuotendolo col polso, ma alla fine io mi sono senza orologio, li ho spaccati tutti gli altri, cinturini rotti, mi è caduto e si è rotto. Io sono sempre per la roba Casio, quelli, vabbè, anche lancetta, oppure quelli digitali. Mi stava piacendo quello che via radio prende l'orario esatto dall'orologio atomico ed è precisissimo, perché si aggiorna continuamente con questo famoso orologio atomico di Francoforte, no? E riceve via radio l'ora giusta. Il mio è un Chic Zen, un crono Chic Zen, Echo Drive. Ehi, vabbè che non li conosco un po', conosco il nome ma non... Proprio l'orologio non l'ho mai curato, non ho il culto dell'orologio. Per quello mi accontentavo di Casio. Però i Casio hanno un porco vizio. I cinturini in plastica, in gomma, no? Durano giusto i 2 anni della garanzia, poi si rompono. E poi devi stare a cambiarlo, se lo vuoi uguale lo devi ordinare. Oh, che palle, guarda. Ma a me è tutto in acciaio, 100 metri di profondità, scende in acciaio. Anche Luca se l'ha regalato da poco, io me ne ho preso 2. Io sono partito di orologi, mi piacciono molto, ne ho diversi, ne avrò una decina. C'ho anche l'orologio a cipolla, tutto quanto in argento. A cipolla? Ma quelli da taschino di una volta? Eia! Eia! Poi c'era un periodo che non sopportavo al polso niente, cioè io poco sopporto, quindi non voglio né catenine, né bracciali, né anelli, nulla, non sopporto nulla. E non lo so perché, mi ha preso così. Mi rompevo le scatole, poi a parte che l'orologio in estate mi fa sudare il polso, perciò anche mi ero rotto le scatole di portarle, vabbè. No, quando sono leggeri no, quando sono pesanti gli orologi sono, io ne ho uno, Sector, che è bellissimo, ma pesa, ragazzi, un trono pesa. Quello ti irrita anche il polso a volte d'estate, a furia come sudi, no, ti irrita il polso, te lo fai vedere tutto rosso. Però è un bellissimo orologio, è un peccato, e ogni volta che devi cambiare la batteria gli devi fare la prova dell'acqua e spendi 80 euro tra cambiare batteria e fare la prova dell'acqua, perché gli mettono una guarnizione nuova ogni volta, perché quello riscende in profondità a 300 metri. È bellissimo, però troppa spesa, ogni volta che cambi batteria, se no ti entra l'acqua, anche se apri il rubinetto ti entra l'acqua se non ricambi la guarnizione. Sì, quello, guarda, era previsto anche per i Casio, quelli subacquei, no? Dice, ogni qualvolta si cambia la batteria bisogna sostituire la guarnizione. E quindi quello devi spedire qua, non lo so se te ne fanno. Si è rotto le balle quegli orologi anche subacquei. Allora? Che? No, il mio lo porta al corso, da quello che venne il Rolex eccetera eccetera, prende anche i Sector, lo porto lì e lo mandano, non è che lo mandano fuori, lo mandano qua a Sassari, in via Marras, mi pare che ci sia quello che gli fa. Io che conoscevo di orologiaio, il vecchio Galimberti, quello che era in via Moroni, il padre, quello che c'è adesso ha cambiato sede, no? Mi pare sia in via Montegrappa, però credo che sia il figlio. Però ogni volta per cambiare batteria, che palle, non trovi parcheggio, cioè io ci avrei 2 orologi, uno Casio a lancetta e uno Citizen a lancetta, no? Di tanti anni fa. Però già è un casino, vai lì, non trovi parcheggio, non sai dove mettere la macchina, allora ci vado in tram, mi sa, un giorno, e gli porto tutti e 2 e gli faccio vedere la pila. Marco, vai a Città Mercato, te la mettono anche lì. L'ha messa Natalino l'altro giorno. Nel suo orologio, addirittura costava 5 euro e non ci aveva 5 euro, ne aveva solo 3 euro spiccio, gli ho detto c'ho 50 euro, no guardi, mi dia 3 euro, non fa nulla, gli aveva fatto pagare 3 euro, invece che 5. Sì, sì, te la metto a Città Mercato, vai lì dove quello che vende gli orologi te la cambiano, o in uno, o nell'altro, te la cambiano tutti e due. Una volta era andato in quello che credo che sia sparito adesso come negozio, le batterie non ne mettevano, lo sai, no, c'è bisogno andare dall'orologiaio, era quello che vendeva il Calypso, gli orologi Calypso, che poi aveva chiuso, mi pare è sparito, ce ne sono altri in posizioni differenti. Ho detto vedo un negozio di orologi, a vendere solo. No, questi qui li cambiano, sono donne, te lo fanno in 5 minuti, davanti te lo cambia, tu glielo dai, va dietro nella retrobottega, ti cambia la batteria e poi te lo porta già con l'orario già sistemato. E basta, tutto lì, come ha fatto con Natalino l'altro giorno. Natalino come sta? Non lo sento dalla volta che l'ho visto a Platamona 2 mesi fa, mi pare, in quel bar della Marina, in fondo, no? In fondo al Vialone. Quello della Torretta. Quello della Torretta, sì. È sempre lì, va. Già sta bene, dai, in generale, però ho sempre dolore anche lui alla gamba. In generale però già sta bene, capito? Poi l'ho visto l'altro giorno, mi per caso, siamo usciti e siamo andati a cambiare questa batteria, ci siamo seduti e mi ha detto io ci vedo, io andiamo, siamo andati insieme. Io dovevo comprarmi anche un orologio, avevo la fissa di comprare un orologio, li ho visti, cari, ne ho visto tanti, ma come questo qua li ho visto su internet, c'era la ditta Cars, ma la ditta Citizen che presentava tanti orologi e cose, no? E mi è piaciuto questo Eco Drive, ma siccome ce l'avevo io, invece che così, della Citizen ce l'avevo Swatch così, però era in lega leggera, in titanio era quello che c'avevo, invece questo qui è proprio in acciaio, ma è bellissimo, me l'hanno fatto perdere, siamo andati sul pedalò e questa stronza mi ha spinto, me ne è uscito dal polso, si è allargato, si è aperto, non si è allargato, me ne è uscito dal polso ed è caduto in una profondità d'acqua che non ce l'abbiamo fatta scendere, era troppo alta l'acqua, eravamo un bel lontano dalla riva. Non ce l'abbiamo fatta scendere, l'ho perso, costava 180 euro, me lo ricordo ancora, avevo preso via Cesare dei Battisti quando c'era la Swatch. Gliel'avrei fatto pagare in natura alla tipa. Sì, era mia figlioccia. Ma figlioccia, non ho capito, c'era un tipo o una tipa? Una tipa. Era mia figliuccia, che mi diceva, e tu fatti il padrino, e tu fatti il padrino, no, che ho mangiato da poco, non posso tu fare, pidami con un impita, mi ti fatti fare la stessa, cazzo, guarda. Una cosa allucinante, quando mi sono visto senza l'orologio, cazzo, l'orologio, 180 euro, vai, no, è male, l'ho detto alla madre, non è che si è acciarata, te lo pago io, no, nulla, non ha detto niente, ha fatto finta di nulla. Quindi anche con il rischio di farti pigliare una congestione o un malessere, di farti sentire male in acqua. Però questi parenti, quella ti fa perdere l'orologio, l'altro ti fa perdere tutte le foto. Parenti serpenti. Marco, qua non ti dico la storia delle foto perché ha una continuazione, ma non, qua, meglio che non te la dica perché mi incazzo. Ma ti devo andare. Aspetta che qualcuno ha parlato sotto di te, avanti, chi è? Siete due Spiti Gonzales, ciao Marco, ciao Gianni, aspettami a Gianni, sono riuscitato sì Gianni, all'anima, già era un giorno senza sentirti. Ciao Giulio, io accendevo, non vedevo, non sentivo nessuno, alla fine mi sono scocciato e non sta più entrando nessuno, quindi non ho più acceso. Guarda, l'ho chiesto a Davide proprio ieri, e Giulio non è più visto, dice sì, era qua poco fa, mi ha detto che eri lì, ha detto già sta bene, sì già sto bene, già sta bene, ha detto meglio così, perché non siamo più sentiti, e niente, non sento più in radio. Ne approfitto per mangiare, vi lascio, dai. Mangia, mangia, c'è anche Luca, dopo lo chiamiamo. hai capito giù. E sono andato ieri a sapere dove devo comprare. Ah, devo comprare le gocce per mettere al cane, le gocce per le antiparassitarie. E sono passato. E infatti stavo appena arrivando perché era uscito, ho detto in giro, sì, no, sono andato a fare una commissione alla Combe che mi pare che è andata. E niente, e ci siamo visti lì. Ho capito, sì, infatti io ieri mattina ero lì. Anche stamattina veramente, e bravo, tutte le mattine io ci sono lì. Però poi non è che rimango sempre fisso lì, no? Magari mi sposto due passi da una parte o dall'altra, che ne so. Dipende dai giorni, dai. Oggi ad esempio, dove sono andato? Alle poste. Mi sono spostato e sono andato alle poste per pagare una bolletta. Niente di più. Una bolletta che non ci avevano mai mandato, penso un po' Gianni, una bolletta d'acqua del 2016, 2014 anche, no 2014, sì, no 2016, 2014, che non ci hanno mai mandato. Adesso la Baroa si vede che se ne è accorta, se ne sono resi conto, e mi hanno mandato la bolletta. La stamattina sono andato e l'ho pagata. Figurati. E così bisogna farlo, no? E ti hanno messo la mora? No, no, assolutamente, no, quella cosa era quel periodo famoso che loro magari si dimenticavano, perché l'hanno mandata a tante persone, l'hanno mandata, no? E che non avevano mandato la bolletta quell'anno lì. E allora adesso si vede che hanno fatto i conti, proprio partendo chissà da quale anno, e si sono resi conto evidentemente che c'era da pagare questa bolletta. Ma se tu non me la mandi la bolletta, io come faccio a pagarla? Ma a me invece mi hanno mandato che non avevo pagato quella che del 2016, mi pare. Sono andato, l'ho cercata, l'ho presa, gliel'ho portata e gli ho detto non so di averla pagata. Adesso voi dovete abbassare anche la tassa, perché adesso vivo solo, non sono più con la famiglia, quindi vivo da solo a casa e mi dovete abbassare la tassa. Come stare da dire? Vivi da solo? Perché di voi certo essere da solo? Sì, già una vita. Sono 5 anni separato io giù. Ma davvero? Ma che anno stai? No, sono davvero. Senti, non lo sapevo già. Non lo sapevo. Ma tu sei sempre lì? Io sì. Sì. Sono sempre qua. Quindi praticamente mi hanno mandato una bolletta a costo zero. E un anno io non le ho pagato praticamente perché mi stavano prendendo i soldi. Facevo pagare la tassa mondezza, non dell'acqua, della tassa mondezza era. La tassa mondezza di quattro persone, invece lo so, capito? E mi hanno dovuto scalare tutti gli anni, mi hanno fatto pagare di più. Capita, bambù. Ho fatto quello già, la verità. No, la prima cosa che mi stai dicendo, rimango quasi meravigliato. Vabbè, tutta una vita può succedere. Anche i ragazzi, non ci sono nemmeno loro. Emanuele è a Bologna, lo sai, no? sta lavorando là. Emanuele lavora in una comunità di gente disadattata, roba così. E Marco con mia moglie va bene anche qua. Ogni tanto viene qua, ci sta un mese, due mesi. Ah, ho capito. Vabbè, la prima cosa che sento, ma comunque sono problemi familiari tuoi, chiaramente, che giustamente non è che li puoi mettere in piazza così. Vabbè, adesso è passato tanto tempo, si può anche dire, perché no? Non è un problema, sono cose che succedono nella vita oggi. La vita continua, giù, non c'è problema. Non mi sono perso d'animo io, capito? Io ho avuto altre storie, no? Non mi sono perso d'animo. Beh certo, non credo, non è che si può perdere l'animo, si deve sempre continuare a vivere, per cui no, la vita continua sempre in ogni caso, guarda. Pertanto non devi farne una tragedia mai. mai, perché a un certo punto se due persone non vanno più d'accordo è meglio che si separino, così almeno vivono tranquilli sia l'uno che l'altro. Esatto, abbiamo sempre un buon rapporto, andiamo più d'accordo adesso che ultimamente quando ci siamo separati. Quello vedi, quello è anche la persona intelligente, perché è giusto, se finisce un rapporto matrimoniale non è detto che debba finire un rapporto anche di amicizia, soprattutto per i ragazzi eccetera, perché tutto sommato non è che poi si può dimenticare il passato di un matrimonio, soprattutto quando ci sono i ragazzi, figli, insomma, ecco. Ma io auguro a tutti quelli che si separano di avere un rapporto come ce l'ho io. Io a Natale sono con loro a pranzo, loro vengono qua, viene anche mia ex moglie a mangiare qua a volte, quindi il rapporto è tranquillo, non è... solo che non ci andava più d'accordo, era inutile continuare, capito? Alla fine poi quando torni a casa invece di trovare un paradiso trovi un inferno. Certo, in effetti è così, appunto quello che ti sto dicendo, se per stare sempre bisticciando, tra virgolette, oppure contraddicendosi l'uno con l'altro, tanto vale, ognuno faccia la vita a sé e non se ne parla più, si vive più tranquillamente da entrambe le parti, no? A Davide lo sapeva, non ti ha mai detto nulla, cioè Davide lo sapeva che lo sapeva dove voleva, pensavo che te l'avesse detto lui. No, non mi ha detto niente Davide, assolutamente, no, e poi non ne parliamo mai di queste cose, no? Per cui, no, Davide cosa, non è che va a bandierare ai 420 le cose che magari uno sconfida, non ci mancherebbe. Ha detto che ti stai facendo tutte le macchinette da portarti dove abbia. Quelle sono cose che tanto per passare tempo che mi diverto più che altro. Capito? Sì, perché magari ho necessità di fare un qualcosina e non lo posso fare ugualmente con le macchinette, eccetera. Va bene così. Naturalmente sono tutte poi a 220 quelle, perché quelle a 380 le voglio far fuori, perché voglio liberare anche il locale, no? Completamente tutto lo voglio liberare, così almeno lo sistemo anche la seconda parte, perché avendo le macchine non è che posso fare più di tanto, mentre invece li tolgo via e poi se mi serve per fare anche un mobiletto piccolino, cioè, insomma piccolino nel senso che per mazzata, ecco, insomma, per dire, e me lo posso sempre fare ugualmente. Infatti. E così gli apri il locale anche a tua figlia, o no? No, sai per come ce l'ha già lì, no? La metà è tutto adibito e attrezzato per lì, no? Solo che non è che lo usa tutti i giorni, no? Lo usa solo quando deve fare riunioni di lavoro, capito? Perché allora si trova con i colleghi e la fanno lì, e discutono i lavori che devono prendere, eccetera. Così, perché se no praticamente lei lavora a casa, perché lei c'è anche a casa l'ufficio, no? Però per non portarmi tutta la gente a casa ho pensato di fare quello, vedo il magazzino, glielo sistemo e dunque quando lo necessita lo utilizza proprio per queste cose qua, come con i colleghi di lavoro. E infatti ti disimpegna un po', non ti metti di altra gente a casa almeno. Ha ragione, poi tu che lo potevi fare, hai fatto bene che l'hai fatto, e Antonello bene sta, non l'ho più visto. Sì che sta bene, stamattina ci siamo sentiti al telefono, poi ci sentiamo quasi tutti i giorni, mi andiamo a prenderci il caffè insieme, lì a Mocca, dove via Pascoli, e poi oggi lui era impegnato, è andato a Porto Torres, come servivano dei pezzi e va in quel negozio Brico Fer che lì li tagliano su misura come lo vuole lui, e insomma si trova bene, ma può andare a qui come? No, no, mi trovo meglio lì a Porta Torres. Vabbè, vai a Porta Torres. Io lì ho anche gli sconti per comprare. Perché noi ci abbiamo i Sardex, praticamente, non so se conosci i Sardex, sono, è una modalità di pagamento online, no? Ed è una banca sarda che effettua queste cose. E la mia ditta ha accettato questi pagamenti in Sardex e quindi anche noi abbiamo, possiamo fare la spesa con i Sardex, possiamo andare nei locali, sono, non sono buoni, praticamente tu hai un'applicazione nel telefono, quando devi pagare metti la password e poi metti il totale, no? Di quello che devi pagare e l'indirizzo dove sei, per dire, ogni ditta c'ha un numero, tu metti quel numero lì e paghi col telefono. Ho capito, sì sì, ho capito. Ma è lui, insomma, è già, ci è andato già un bel po' di volte, tutte le volte che mi serve qualche ripiano, qualche cosa, qualche mezzo, eccetera, no? Perché mentre invece se vai da Bricome, che cosa succede? Che magari non c'è la misura che gli serve a lui, no? Di quelli già pre-confezionati. E allora devi comprare un pannello grande, sì, te lo tagliano, però devi comprare tutto il pannello, poi cosa te ne fai? Non se ne fai niente. Se a me mi serve per dire un piano, tanto per fare un esempio, 40 cm per un metro, quello te lo fa 40 cm per un metro, mentre invece da Bricome te lo fa 40 cm per un metro. Siccome non è una misura che magari loro ce l'hanno come vendita, allora devi comprare il pannello grande che è 2,50 m per 122 e te lo taglia, ma ti devi pagare tutto il pannello, poi te lo porti via chiaramente. Dice, che cosa me ne faccio? Tanto vale, vado a Porta Torres, mi faccio una passeggiata, lo pago anche qualcosina di più di quanto può costare col pezzo, però ce l'ho già fatto, pronto su misura, pronto a piazzarlo. Ecco come la pensa lui, e ha ragione. Ha ragione, sì, perché io da poco ho comprato un pannello lo stesso così, perché mi serviva per una poltrona. Senti cosa hanno fatto: la poltrona in noce, il posto dove ti sedervi era fatto intrucciolare. Sono andato a sedermi un giorno, e c'è scesa la poltrona, e tocca adesso a buttarci questa poltrona, ho pagato un sacco di soldi. Ecco, il mio amico mi ha detto, già smontiamola, io vediamo un pochettino se si può fare qualcosa. L'abbiamo tutta smontata e c'era praticamente questo pannello intrucciolare. L'abbiamo tolto, abbiamo preso le misure, siamo andati lì, l'abbiamo praticamente tolto, c'era lo strip strap sopra, l'abbiamo tutto, tutti chiusi, tutto quanto, tolto lo strip strap, l'abbiamo ripiazzato su quella trave, su quel pezzo che abbiamo comprato, l'abbiamo ripiazzato, adesso è un bombo. E a buttarcela era, e adesso è meglio di come era prima quando l'ho comprato. Sicuramente sì. Lo so, perché purtroppo loro poi l'avevano e non vale niente, capito? Però quello che c'è dentro tu non lo sai e naturalmente loro utilizzano materiale economico al massimo. E il personale dopo un bel po' di tempo si incomincia a crepparsi e poi alla fine si sfonda del tutto e quando ti siedi ci cade dentro. Oggi la parte che dovevano fare più forte l'hanno fatta più debole, proprio dove va il peso l'hanno fatta intrucciolare, il resto cazzo, tutte noci in legno massiccio, proprio pesanti che trovo, quella, è di quelle sedie che poi tu ti puoi sdraiare, ti si allunga la poggia a piedi, è di quelle un bel belle, e l'avevo pagata anche un bel po' di soldi quella sedia. Sì, sì, e io ho un salotto in pelle così, con le due poltrone grandi e poi il divano, grande, quello a tre posti, che si inclinano, lo schienale si inclina e puoi anche dormirci sopra, perciò sia le poltrone e anche il divano. Il divano però le due parti laterali, quella centrale no, cioè il posto a sedere centrale, quello è fisso, rimane fisso. Però le due laterali, quella di destra e quella di sinistra, anche quelle si inclinano tranquillamente. Ma quello l'avevo comprato io già 10 anni fa, più o meno, una cosa del genere. è tutto in fede, è nuovo nuovo, è nuovo nuovo, nonostante che viene utilizzato molto. Purtroppo si perdono in queste cavolate, cioè uno non può pensare che la parte che deve essere più robusta deve essere quella dove ti siedi. Fanno le parti laterali, tutto lo scheletro bello robusto, e poi dove ti siedi si perdono. La cosa più difficoltosa è stata togliere tutte i chiodi e smontarne quel pezzo dello strip strap, perché poi il cuscino ha lo strip strap a sua volta e attacca sopra la base, capito, che io ho comprato. Quindi abbiamo dovuto smontarlo senza strapparlo, siamo dovuti stare molto attenti a non strapparlo. Piano piano siamo riusciti a togliere tutti quanti i chiodi, tutto quanto, c'erano veramente graffette. Abbiamo tolto le graffette, abbiamo messo chiodini, però abbiamo messo chiudi e è andato molto meglio con i chiodini, te l'assicuro. Certo, non ci sono dubbi. Anche con le graffette già tiene lo stesso, però col materiale fatto come si deve, ovvio. E adesso non ti si rompe più già. Adesso ti dura una vita, ti dura, per cui non avrai più quei problemi. Lo so, ma purtroppo è così, le fabbriche, già lo sai, quello che si vede cercano di cambiare, cercano di farlo bene, però quello che non si vede se lo fanno a risparmio al massimo, per cui dice tanto non si vede, coperto, eccetera, eccetera, e allora loro risparmio, perché non è che devi pensare è una poltrona, loro fanno centinaia, migliaia di queste poltrone, perché se dovessero utilizzare materiale buono, magari sono costretti a far pagare qualcosina di più la poltrona, che sarebbe la cosa più giusta anche da fare e più onesta soprattutto, però loro non la pensano in quel modo. Dice il commercio, bisogna risparmiare quando si costruisce. Vabbè, magari ne comprano di meno se vedono che costano di più, invece se costano di meno la gente si fa fregare, però sarebbe più giusto farle bene e farle pagare un po' di più, così almeno non ci devono rimettere mano. E poi oltretutto abbiamo pensato bene di mettere, perché quelle lì sono travi che sono incollate l'una all'altra, quelle che compri da, tu già lo sai meglio di me, secondo come tu le metti, tu vai a sederti e si spaccano anche quelle, quindi abbiamo messo di traverso, di modo che non, e poi le abbiamo messo sotto anche un rinforzo, di modo che non cedessero, capito? Tanto meglio, infatti è così che si dovrebbe fare, mettere un rinforzo supplementare in modo che col tempo, anche se si abbassa, non scende mai. Lo so, però la fabbrica dei mobili, il mobilificio non è che la pensa in quel modo, è con quale discorso. Un po' per il tempo, un po' anche per il risparmio del materiale stesso già. È così, per cui lo sappiamo. È stato bene comunque per parlare in quel modo, almeno sai che è fatta una volta per sempre. Guarda, io stavo già per telefonare al numero verde, ce la volevo buttare via. È stato quel mio amico che si è messo in mezzo e ha detto no, non ce la buttare, ma stai scherzando, che ci butti una sedia per una fessilia così. Andiamo da Brico, compriamo il pezzo, lo facciamo tagliare su misura dal mio genero, e c'è il genero che lavora e taglia la legna. E ce l'abbiamo fatto fare, infatti me ne ha mancato un bel pezzo di legno, però non ce n'era di misura più piccola, e c'ha ragione Antonello, a se a te ti serve una misura, perché devi prendere di più che dopo l'altro pezzo non te ne fai nulla? E infatti non te ne fai niente, sei obbligato a prendere per forza il pannello intero, mentre invece in quella maniera ti disimpegni facendo, a parte fatto che ce l'hai già su misura direttamente per piazzarlo, però se prendi il pannello, insomma, è complicato, ci vuole la macchina per il trasporto, no, non lo conviene. E giustamente ci sono questi negozi che lavorano in un modo, ci sono altri negozi che lavorano invece accontentando meglio il cliente. No, ha ragione, perché a me è successo questa cosa qui, infatti me ne ha vantato un pezzo, me l'ho messo nel mobile, non l'ho buttato, perché ti può sempre servire per qualsiasi cosa, però non viene un altro ripiano per quella sedia. Se si dovesse rompere non si può mettere quello perché rimane più corto, quindi non lo posso utilizzare, manco baghisce. Può succedere che magari serve per qualche altra cosa e ce l'abbiamo. E mi sa, mi posso dare che tagliere in chibi, è bello grosso lo spessore. Tagliere adesso? No, il tagliere no, già, no, te lo consiglio. Il tagliere no, vabbè, ci vuole meglio molto compatto, ci vuole spazio per il tagliere, per la salute del cibo che tagli, perché se no va male, non va bene, già. Ricordati sempre, il tagliere l'ho fatto di legno in faggio, non nessun altro legno, intanto perché il faggio è duro. Però ce ne sono tanti degli duri ovviamente, però quello più sano per il cibo è il faggio è vaporato. Allora io il tagliere l'avevo comprato, non so se ti ricordi, scendendo dove c'era prima il mercato del pesce c'era uno che faceva questi lavori e ne avevo comprato uno bello di tagliere, bello grosso, spesso, e tagliavo la carne, cioè anche col coso, tagliavo il pollo in due per dire cosa, o facevo le fettine di pollo, prendevo il petto di pollo e facevo. Beh, l'altra volta tagliando il coniglio in due e non mi si è spaccato in due il tagliere. Non è posso la vita, mi ha finito, ma buttacelo via, che vecchio, questo e quell'altro. Beh, lo sai che non ne ho più trovato così. Li ho trovati in legno, ma solo il legno vino, boh, non servo a niente. Non ci puoi battere sopra perché se no ti si sfascia. Lo so, si è spaccato perché magari era incollato lì. Probabilmente è quello. Invece può essere fatto direttamente da un pezzo intero, che non sia legno incollato, perché se no col tempo chiaro la colla prima o poi cede. E ricordati sempre che si deve fare, e anche quando lo compri, compro sempre che sia legno di faggio, perché il legno di faggio è un legno pulito. Tu tagli la carne sopra e tranquillamente la verdura, tutto quello che ti pare ti piace. Ed è sempre una cosa pulita, mentre invece se utilizzi altri tipi di legno, ci sono legni addirittura che tingono, come ad esempio il castagno. C'è tanta gente, questo qui è un tagliere sardo, oppure il rovere, uguale. Quello lì è una porcheria, perché intanto se tagli ad esempio cosa tipo lardo, tanto per fare un esempio, se lo fa nero, se lo fa, il lardo bianco, se lo fa nero, perché? Perché il castagno tinge, il rovere tinge, il rocco tinge, tutti i legni tingono quasi, all'infuori del faggio. Il faggio invece è un legno che non ha fori aperti, di conseguenza non entra niente dentro. Una volta che è finito tu lo metti sotto il rubinetto, lo lavi, te lo metti e te lo conservi da parte, te lo fai scivare e poi te lo conservi. Ecco come già. Allora il mio, si stavano formando i bordi neri, perché a furia di bagnarlo, di farlo e coso, e l'avevo tutto fatto bene levigato con una carta vetrata, l'avevo fatto tutto bello liscio liscio e l'avevo pulito. Mia figlia mi diceva, buttalo via che è vecchio. No, lo butto, questo qui che è troppo bello. E l'avevo tutto quanto ripristinato, l'avevo cazzo, e dopo mi si è spaccato in due. Ne messi proprio così come dici tu, sicuramente era incollato. Infatti, scusa un attimino al telefono. Ok. Se la giubilata in mano a nessun lato. Alle volte anche il mio squilla, poi quando vado a prenderlo non squilla più, perché magari hanno sbagliato, oppure magari sono quelli delle car center che a un certo momento non si staccano e non ti chiamano più. C'è scritto sconosciuto, quindi non mi interessa. Sì, è così. Solo che non sai cos'è giù, che quando ti affezioni alle cose che c'è in casa, che poi ti si rompono, ti dispiace. C'avevo di quei bicchieri della birra, ce ne presenti quelli alti, e allora i rappresentanti sganciavano con lui per incentivare anche le vendite della birra. Dai, ma metti di più di quella birra e meno dell'altra, capito? E ti regalavano le cose, ti regalavano quei bicchieroni, quelli della birra Bühler, quelli lunghi, alti, e ne avevo due. L'altro giorno la fanno, mi è cascato di mano, e mi lo do, vabbè. Cosa vuoi? Aspetta un attimo. Ok. Adesso non rispondo più, vai a rispondere e ti staccano il telefono, non è che ti rubano il telefono, che sei bastardo. E ti lo sta, non se ne capisce più niente, tanta gente fa il furbo, anche col telefono, per carità, è una vergogna, siamo arrivati al punto, ragazzi, oggi bisogna diffidare di tutti quanti, di qualsiasi cosa, è incredibile, ragazzi, San Giorgio Luigi, tutte le cose che la gente combina, chissà per quale motivo poi, non lo so, qual è l'interesse di fare certe telefonate così. Quando uno ti telefona per gli altri 2 di notte, tu ti alzi, rispondi e poi non c'è nessuno. Quello cos'è? Quello è un cretino che ha voluto fare un numero a caso così, tanto per disturbare la gente. Lo so, anche qua lo facevano, poi ho tolto il numero di telefono dalla guida io, perché mi facevano questi scherzi di notte. Una volta hanno telefonato queste ragazze e fa: pronto, famiglia Canarino, e io ho detto: da quanti uccelli ha preso? Questa volta hai sbagliato uccelli. È fatto bene. Ma c'era un periodo fino a un paio d'anni fa che tutte le mattine, immancabilmente alle 6, 6:15, 6:30 al massimo, squillava il telefono qua, tutte le mattine. Nonostante che abbiamo risposto tante volte, la grande signora che è sbagliata, si sentiva che era una donna anziana, una donna vecchia era, e questa donna deve essere che era ribambita e chiamava la figlia, perché quando rispondeva, la prima cosa che diceva, faceva il nome della figlia, di una donna, no? Tanto guardi signora che è sbagliato, va bene, no? E chiudeva. L'indomani mattina di nuovo da capo, sempre lì, ma questo durava minimo un mese, ma alla fine, ragazzi, abbiamo scoperto chi era, alla fine gliel'abbiamo detto, ma insomma, tua madre così e così, tutte le mattine, immancabilmente, ma cosa devo fare? La devo mandare al diavolo, che cosa devo fare? Capisco che non è un'anziana, però se il fatto che sia di bambina non significa che ha il diritto di disturbare la gente alle 6:30 del mattino. Che poi ti lascia appeso, perché a quell'ora lì magari hai paura che ti telefonino per qualcosa che è successo, capito? Ti lascia appeso e non riesci a dormire più. E beh, infatti a quell'ora, una volta che ti svegli, come fai a riaddormentarti? Non è possibile, non è possibile. Già faccio fatica per dire se mi sveglio una notte che ho necessità di, per dire, non so, di andare durante la notte, magari in bagno verso le 4 del mattino. Mi sveglio a quell'ora, poi a riaddormentarmi, o è che ci riesce più. Mi riaddormento, lo sai quando? Alle 7, magari dalle 7 alle 8 poi mi alzo. Ecco, però, pensate, 3 ore sveglio durante la notte, tu lo sai quanto è lunga la notte, quando uno è con il cazzo addormentato, che non puoi fare niente, non puoi fare rumore, non puoi parlare, non puoi fare niente. Non va bene, insomma, ecco. Non va bene, purtroppo succede anche quello. È successo anche a me, è successo. E dopo la mattina non ti viene voglia di alzarti perché sei stanco. Lo so, perché col caldo che c'è qui, stai girando da una parte all'altra, non riesci a dormire davvero. Comunque ci sono dei numeri che mi hanno mandato di telefono, che praticamente ti chiamano e ti assorbono tutto quanto il credito che c'è al telefono. Non me ne frega niente, perché intanto io ho un mensile nel telefonino, pago ogni 3 mesi, si può immaginare, io pago 30 euro ogni 3 mesi, no, ma io parlavo del telefono di casa, del telefono di base, capito? E quello, questa donna telefonava sempre lì, telefonava. E dunque, vede tutta la famiglia, perché tu fai chiudere il telefono alle 6:30, alle 6:15, alle 6:30 del mattino, vede tutta la famiglia, perché è ovvio. E poi, la rispondere invece è questa cretina che ha sbagliato. Dice una capita una volta, ma pazienza, una donna anziana, una donna vecchia, sopportiamo. Ma che poi diventa questa una cosa che è durata un mese, alla fine, no? A un certo momento mi fai anche arrabbiare, ti devo anche rispondere male. Non è possibile già. Ma sicuramente devo avere anche il numero sbagliato, perché invece faceva il numero che ci aveva scritto, probabilmente gli hanno dato il numero sbagliato, magari cambiava un numero dal tuo a quello della figlia, cambiava un numero e succedeva così. A me addirittura mi hanno telefonato anche da fuori, da continente, mi hanno chiamato Antonio, ho detto questa ragazza, guarda, io non sono Antonio, gli ho detto, comunque è piacere di conoscerti. Dice, da dove chiami? Io sono dalla Sardegna, e tu da Lucca. C'è Antonio, questo amico mio, mi ha dato questo numero, no, ma l'ha sbagliato, guarda, non è il suo, è il mio così. E quindi, capito, è successo anche a me. Sì, beh certo. C'è tempo fa c'era uno che mi telefonava la mattina intorno alle 10. Aveva un accento tipo slavo, una cosa del genere. E questo qui mi telefonava, ma mi ha telefonato per roba di una settimana di seguito. Ho detto, guarda che stai sbagliando, questo numero lo hai sbagliato, non è... Ma sì, dice, aspetta che me l'ha dato, mio fratello, ma evidentemente è sbagliato. Per quanto lo capivo così, no, quello che diceva, perché parlava anche con una lingua molto sporca in italiano, ma non è che si capiva molto di quello che diceva. E allora, poi alla fine, dopo una settimana, l'ha capito che era sbagliato, allora non l'ho più chiamato. E io ricevo il telefono, sicuramente fatte apposta, alle 4 di mattina, oppure alle 2 di notte, eccetera, eccetera. E alla fine ho preso tutto il numero di telefono e ho risolto il problema. Il numero di telefono alla guida e non mi hanno più chiamato. Ma c'è gente già, è così, c'è il gusto di fare, non gliela frega niente di guardare le cose del pubblico. Fanno un numero a caso, capito? E allora, a chi capita, capita. Ecco quello è il discorso. Ci sono queste persone così cretine, o sono pazze, che ne so. Sono persone rispettose, ma le occasioni sicuramente. E se fanno un numero a caso, può capitare a me, può capitare a te, può capitare a chiunque. Quello è poco, e quando chiamavano Piazza Castello ci hanno chiamato una volta con l'ambulanza, hanno chiamato a noi i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco, ci siamo trovati tutti lì come fissi, non è successo niente. E hanno scavato, sai cosa facevano? Quando non c'erano i tassi, facevano il numero dai telefoni del tassi, capito? E chiamavano da lì, anzi facevano il numero e rispondevano dal telefono del tassi. E alla fine siamo riusciti a capire la novella perché si era messo un mio collega lì in Piazza Castello per guardare la situazione, perché lo facevano ogni sera. E ogni sera puntualmente chiamavano e anche la polizia si era messa a controllare. E l'hanno beccato, era uno che faceva il numero di telefono dal telefono del tassi quando c'era, adesso non so se ci sono ancora, non li ho più visti. Figuriamoci. Quando l'ho fatta, basta. Quando l'ho fatta. Vabbè, comunque. No, perché a un certo momento stavo pensando, ma direi che ci mettiamo anche il 10, mettiamo così almeno al telefono di casa, si chiamano e fa il numero che ti sta chiamando, no? Ma che me lo fa fare? Per quale motivo devo pagare io di più tutti i mesi nella bolletta solo per sapere chi mi chiama? Non me ne frega niente chi mi chiama. È già cara la bolletta, se paghiamo già tutti i mesi intorno ai 57-58 euro al mese, figurati, il telefono di casa non lo usiamo mai, solo perché abbiamo la DSL, no? È chiaro, perché serve a mia figlia per il lavoro, con computer, eccetera. Se no io da casa non avrei proprio tolto un telefono. Per adesso che ce l'ho 40 anni, anche oltre, forse anche 45, anzi, senza forse. Per cui, no, anche di più di 45, da quando mi sono sposato non ce l'ho quasi, e dopo pochi mesi che ero sposato avevo fatto la domanda e avevo fatto installare il telefono. Vabbè, allora non esisteva telefonino, eccetera, eccetera. E andava bene. E ancora oggi ce l'ho, ma ce l'ho solo per quel motivo lì, perché c'è la DSL che mi interessa. Noi all'inizio l'avevamo fatto in duplex con quella che c'è di fronte. Però poi noi non potevamo telefonare lui, ed era sempre occupato lì, sabato ore al telefono. Alla fine gli abbiamo detto: ascolta, non ti offendere, però ce lo mettiamo a conto nostro il telefono, perché sei preoccupato, se dobbiamo fare una telefonata urgente non possiamo farla. E così abbiamo fatto, prima si poteva mettere in duplex e pagavi la metà. Sì, lo so, perché pagavi la metà tu e la metà un altro utente, sì, è vero, lo so. No, io l'ho sempre avuto singolo, sempre a conto nostro e basta. Prima, l'unica cosa che è successa è che quando mi sono trasferito di casa in questa casa qua, che ormai ci sono già 16 anni qua, allora ci hanno cambiato il numero, perché apparteneva ad un'altra cabina, però mi avrebbero lasciato anche lo stesso numero, nonostante che sono sempre nella stessa borgata. Perché infatti avevo chiesto, ma lasciami lo stesso numero? No, dice purtroppo no, in quella zona che è arracciata ad un'altra cabina, per cui dobbiamo cambiare il numero. E vabbè, cambia il numero, è così, è stato. No, a me il cordless mi insegna chi mi chiama, se è telefonata dall'estero, se è telefonata di gente che io conosco, eccetera eccetera, mi insegna tutto. Quindi se io voglio rispondere, rispondo, se no non rispondo più. Adesso quando vedo Milano manco rispondo, lo spengo e buco, capito? Tanto lo so già che sono quelle ditte telefoniche che vogliono quelli dell'Enel, l'Enel sì e questo e quell'altro. Non le cambio più, l'ho cambiate mille volte queste ditte qua. Ho provato tutte e sempre la ditta madre che è quella migliore, sempre quella. Enel, ciò e buco, basta, non le chiamo più. Beh certo, ma è così, infatti è così, sia per il telefono che per la corrente elettrica, è sempre il gestore madre che si deve prendere, è utile andare lì, sono tutte quante le fesserie, aziende addirittura che ha cambiato ad esempio da Enel, è diventato Edison, e poi a un certo punto si vede proprio fare due bollette e le dobbiamo pagare tutti e due, ma insomma non è possibile, dai. Ma poi che motivo c'è di cambiare ad esempio da Enel a Edison o ad un'altra gestione? È lo stesso discorso come per dire chi te lo fa fare da Telecom, per dire andate a Vodafone o a Wind o altri gestori. Io nella compagnia telefonica avevo un amico che tra l'altro abita, adesso è in pensione anche lui, abita lì in via Bandetta, vicino a casa tua dunque, e mi diceva guarda che la casa madre, cioè la gestione madre, è sempre Telecom, che prima era Sind, anche prima addirittura era Sind e così via, no? E questi che ti chiamano per fare l'abbonamento, non è vero che non risparmi. Innanzitutto se ti succede un guasto, chiami a noi nel giro di 24 ore, se siamo lì e ti ripariamo l'apparecchio. Mentre invece se capita che sei con un'altra gestione, possono passare anche 15 giorni. Perché? Perché l'impianto è nostro sempre, hai capito? Loro ce l'hanno in affitto, ecco cosa mi diceva già. Eia, io guarda, ho provato Win, ho provato, come ti si chiamava quella, Telecom, ho provato Vodafone, eccetera, eccetera. Gli unici che si salvano sono Vodafone e Telecom, boh, gli altri non servono a nulla, niente, proprio zero, non prendono, ormai c'è chi forse non si sente, questo lì dicevano che era non so che cosa, che era il boom, eccetera, eccetera, non prendeva nessuna base. Infatti è così, adesso c'è questo nuovo gestore, questo Iliad o cosa marchese si chiama, 7-8 euro a vita per sempre. Sì, uno di questi si è lasciato mio fratello, ogni tanto si lamenta, porca miseria, questo telefono, secondo me il microfono non prende. Oh, perché per te che te l'hai cambiato? Hai capito che devi tenerti il record, o ti tieni il monofo, oppure ti prendi il team, ti prendi, che sono quelli che della Telecom, team è quello della Telecom, per cui sono il gestore madre, e dove ti trovi, funziona sempre, per dire, no? Se tutti avuti duri, infatti non conviene a cambiare, conviene lasciare quello che c'è, sai, che è morto, devi morire e via. Sai quello che devi pagare alla fine del mese, poi ti dicono una cifra, no, poi aumenta, il primo mese mesi dopo cominciano a aumentare, a farti pagare di più, sempre ogni mese di più, ogni mese di più, alla fine che paghi più di quello che avevi prima. No, non conviene proprio far niente, cambiare. E poi ti telefonano le ore più impensate, o quando stai riposando dopo pranzo, o quando stai mangiando, o quando tu li stacco la sera che ti stai rilassando, ti guarda, tutte le ore più impensate ti chiamano loro. E io gli ho detto, abbia pazienza, sto lavorando, non posso rispondermi. Ma ascolti, a uno gli ho detto, ascolti, non mi interessa, ha preso il telefono, mi ha richiamato questo qua. E mi ha detto che dovevo usare più educazione, non so che cosa. Allora, ma ce la fai andartene in quel paese? Cambi la voce. E io non ti ho risposto ma l'educazione, ti ho detto solo che non mi interessava, appunto, non ti ho detto altro. Idem. E infatti è così. Lo so, ma ci sono anche quelli strapotenti oltretutto, che insistono, e a me mi hanno fomentato quando telefono quelli, soprattutto dalla Tunisia, che ti propongono il cambiamento del telefono o dell'Enel, di cambiare il gettone, ma quando mai? Ma va a farti ammazzare, e poi ti telefono sempre o al pranzo o al cena, ma sempre nei momenti meno adatti ti telefono. Forse perché loro pensano, a quell'ora la gente è a casa, dunque telefono a quell'ora e sono sicuro che mi rispondono. E purtroppo è così già, e cosa ci vuoi fare? Io, la verità, io la taglio corta, quando sento quello chiudo il bastone per farla finire. E io devo stare lì a ascoltare, invece quando risponde mia moglie si ascolta tutta l'altra fila, la fila per dire poi no, non mi interessa. Ma chiudi subito, quella stai lì a prendere tempo a ascoltare la cantilena di questa gente, ma cosa te ne frega? Poi a Marco, avanti. C'era un bip sotto Giulio, avanti. Ma che telefono? Avanti chi è? Oppure preparazione? Troppo forte. Guarda, lo stesso, una volta chiamato il solito che voleva sapere il codice cliente dell'ultima bolletta, questo aveva un accento tipo dell'est, no? E continuava a parlare, io dicevo, sì, ma lei per quale ditta lavora? Quale azienda mi sta chiamando? E sempre continuava la litania, no? Senza dare risposta. A un certo punto gli ho detto, ma lei da dove mi sta chiamando? Lei di che nazionalità è? Da dove mi sta chiamando? E non rispondeva. A un certo punto questo si incavola e dice, regista, perché gli avevo chiesto di che nazionalità era, no? E lì mi ha fatto partire l'embo, ho detto, ma vai a cagare, insomma, io ho detto 4, e questo è richiamato pare 2 o 3 volte, io lavoro per dar da mangiare ai miei figli, ho detto, no, voi rompete le balle alle persone, a tutte le ore, e questa è una truffa, ha detto, questa che fate voi, perché più lonfi, chiedo il numero bolletta, e anche se tu non sottoscrivi, per dire, telefonicamente, ti arrivano 2 bollette poi, capito? Più truffaldini praticamente danno loro l'assenso, capito? Infatti non bisogna mai dare il numero bolletta. Infatti io non le do mai queste cose. Adesso poco fa hanno chiamato per 2 volte, vai a rispondere e ti chiudono il telefono, capito? Adesso mi sa che lo richiamo a questo qua, lo sa cacchio voi. Allora lo sai che quei numeri, no, che chiami e non risponde nessuno, no? O risulta occupato perennemente o inesistente addirittura, ti dice, li richiami, cioè non puoi richiamarli, sono tutti numeri fatti apposta o per fare da soldi o per vedere se l'utente è attiva, è tutto uno schifo, da quando c'è poi questo trattamento dei dati è diventato uno schifo, praticamente le aziende vendono il tuo numero di telefono, la tua email e tutti i tuoi dati, capito? Li vendono, li svendono a chiunque, ecco perché poi il telefono ce l'hanno tutti e chiamano sempre dalla Romania, a parte questi call center certe volte non lo sanno bene l'italiano e quindi non lo capiscono bene tutte, capito? Vabbè. A proposito, hanno trovato un call center, no? Venivano trattati come schiavi, no? Minacciati di licenziamenti così, a seconda di come li girava loro. praticamente gli facevano firmare un foglio in bianco di dimissioni all'inizio di quando ti assumevano, un foglio in bianco di dimissioni, roba da matti. Ed era questo call center, dice che si trasferiva ogni poche settimane, no? Da una sede all'altra in Italia questa volta. Ed era di una notta, di un noto gestore dell'energia elettrica, secondo me era Enel Energia, i più scorretti di tutto e in tutto. Sì, io l'ho letto sul giornale quell'articolo già, Marco, e le davano 2,90 euro, mi sembra, allora ai dipendenti, e se no lavoravano 13, 14 ore, 15 ore e anche di più giornalmente. E vabbè, comunque. A proposito già, un postino che c'è nella tua zona, esattamente uno che consegna le lettere in via Nulvi, in quella zona lì, no? Mi ha raccontato una persona che conosco io, un amico che conosco io, che abita di proprio in via Nulvi, lei dice, arriva al postino e ci mette la posta sopra un muretto che c'è davanti alla casa, no? Ognuno poi va e si deve scegliere la sua posta, se la prende. Dice, sono andato, mi sono scelto la mia posta e c'era questo avviso, c'era una raccomandata, dice, che mi invitava ad andare a ritirare la lettera in via Pala di Carlo, numero 100 e tante, non mi ricordo che numero preciso, presso l'edicola. Ma a te immagini, sai dove devo fare il carro? Qui a Ripuglia, dove abito io, da via Nurmi, è dovuto andare a ritirare la raccomandata all'edicola dei punti, non quella sulla strada però, no? Quella quando arriva il semaforo gira a sinistra, quella lì è via Pala di Carlo, già. Ho capito. Come mai l'edicola, scusa, cosa c'entrava l'edicola? È questo che non ha capito, né io né lui ha mai capito. Insomma, è dovuto andare lì per ritirarsi una lettera, perché gli hanno lasciato l'avviso di andare a ritirare la raccomandata in questa edicola, è dovuto andare lì. Ma poi da che mondo è mondo uno quando c'ha l'avviso della raccomandata deve andare a ritirare le poste, mica deve andare all'edicola a ritirarla. Che giro strano c'è qua? Qua c'è qualche cosa di losco. Scheda SIM, già, vi dico quello che so. Ma non sai cosa è successo? Perché in questa edicola ci sono due fratelli, ci sono, per quanto ne so io, la gestione che c'era prima ha lasciato l'attività e l'ha data, a quanto sembra, a questi due. Uno è carabiniere e l'altro è postino. Si vede questo disgraziato, per non ritornare a distribuire la posta, prende sulla lettera che lascia, sull'avviso che lascia, scrive, rivolgersi via Pala di Carlo, numero, presso edicola. Presso edicola Quadrifoglio, ecco, si chiama edicola Quadrifoglio. Ma a te rendi conto già? L'altro lo chiamavamo Diabolico, che è quello che ci ha inviato qui con mille lire. Ah, Mario, è morto quello lì è morto, poveraccio. Ah, morto, che stava al buio sempre, mamma mia, che era cosa manca a prendere i sedili. È morto già da anni quello lì, capita. Ah, secondo che sia morto anche l'altro fratello, pensa un po', l'altro che poi l'ha sostituito, credo, adesso non me lo ricordo bene, però Mario il primo, quello che era con la mamma, te lo ricordi? Sì. Quello di Mario, quello lì è morto, è morto, saranno almeno 5-6 anni, se non anche di più. Cosa stavi dicendo, Marco, la carta? Allora, molti di questi operatori nuovi tipo Iliad oppure O-Mobile, che poi sarebbe Vodafone, no? che è una mobile, no? Li puoi ritirare in edicola, cioè li puoi prenotare se tu non vuoi andare al negozio, tipo Vodafone, TIM o Altot e Mediliad, li ordini online e te le decapitano in un'edicola predisposta, non ho capito, certe edicole fanno quel servizio, no? La scheda SIM, no? Per il cellulare, per lo smartphone, ti arriva all'edicola, però uno dice come fa a sapere quando è arrivata? Presumo che le poste facciano arrivare anche un avviso dicendo che è arrivato all'edicola quello che c'era da ritirare, perché non riesco a pensare ad altro, capito? Sicuramente qualche scheda SIM. Io invece, siccome il negozio Vodafone ce l'avevo qua vicino in via Lamberto, io sono andato proprio al negozio a prendere la scheda SIM. Invece Iliad l'avevo presa al Totem che c'è da Auchan. Quel computer, no, tu metti i dati, i documenti, metti di tutto e ti dà la SIM. No, io quella via non l'ho mai presa. E vabbè, adesso anche la Vodafone sta facendo un po' di casino, che pare che non si possa più pagare al tabacchino, adesso devo controllare perché ha mandato un messaggio, non l'ho letto bene, dai, devo controllarlo bene, cosa ha scritto, che mi sa che non si possa più pagare al tabacchino. Ma io, scusa, ma io sono andato via a Pascoli, tempo fa, sarà un mese e mezzo fa, o già. Siccome io avevo due telefoni, ne ho tanti telefoni, però ne portavo sempre due appresso, no? Uno smartphone e un telefonino normale. Alla fine mi sono deciso a fare, ma sì, uno me ne libero e ci metto la scheda nello smartphone che posso alloggiare due schede, no? Possono stare due schede. Allora, siccome la scheda del telefonino era grande e non ci poteva stare nel loro smartphone, allora mi sono rivolto a quello che c'è via Pascoli accanto alla sua guida già. E così, cosa devo fare? Non si preoccupa, mi dia la scheda. Però la scheda ha preso una tagliata con le pubblici, l'ha piazzata e non funzionava più la scheda. Ma l'ha distrutta praticamente. Allora dice di andare, dice uno in una sede Vodafone o in via d'Italia oppure ci sta mancato e io pago il duplicato per farlo la scheda. Ma quando mai una ti permette di tagliare la scheda se uno non lo sa fare? Cosa è successo? Questa scheda l'ha tagliata male, l'ha tagliata, e dunque non ha potuto, rimpicciolendo, non ha potuto mettere nello smartphone. Sono dovuto andare a Città Mercato, quel locale Vodafone, e mi ha fatto il duplicato, sempre con lo stesso numero, chiaramente, no? Ma intanto però ho dovuto pagare 10 euro lì, mentre invece va per tagliarla lui mi aveva chiesto 5 euro, che gliel'avevo già anche pagato. Poi alla fine ha visto che non funzionava più la scheda, allora mi ha restituito i 5 euro. Per dirti, no, questa gente che non è capace di lavorare e si mette, è un po' come quei meccanici ad esempio che si aprono l'officina, si comprano l'attrezzatura, chiavi e vanno varie e poi lo sanno lavorare. E così è questa norma, quella bruttosa che c'è lì. Guarda che hanno la macchinetta per tagliare le schede, c'è una macchinetta che tu inserisci la scheda dentro, te la taglia perfettamente, te la fa da grande, te la fa mini, ultra mini, come deve essere messa, perché l'ho fatta anche io a Città Mercato con una macchinetta, me l'hanno tagliata loro, tac, con questa macchinetta l'hanno inserita dentro, l'hanno tagliata su misura, l'hanno messa, era perfetta. Sì, no, questa ha preso un paio di pubblici e si è messa a tagliare questa deficiente di ragazza che c'è lì. E cosa gli volevi dire? Sputtando in faccia non valeva la pena, però intanto per dire, no, se non, se, dimmi che non si può fare, basta, per il luogo dove lo possono fare. È utile che tu ti metti lì a tagliare con un paio di pubblici, chissà magari ci avrà tagliato anche le unghie prima di tagliare la scheda, e me l'ha rovinata, perché poi non funzionava più, dice no, ma questo telefono dice non accetta, dice la scheda, ma cosa stai dicendo che non accetta? Se ce la vuole mia figlia ce l'ha, e le due schede le accetta, e allora ha provato con lei, con un telefono che ha lei, e non funzionava nemmeno nel suo telefonino, sempre con lo smartphone che aveva lì, eh? E alla rete per andare lì c'è una sede buona a fondo e fare un duplicato. E beh, voi non lo potete fare? No, no, noi non lo possiamo fare. Servizio, no, come stanno le cose. Ma è un centro buono. Non c'è trovola, fa allora. Sono dovuto andare, c'è stata una cassa, sono dovuto andare. E allora era lei che non era capace, perché c'è trovola, che di solitamente le sanno fare queste cose, te le fanno loro. Boh. Deve essere che non ha fatto qua, quelle che erano su terrafuoco e che non sapeva fare niente. No, ma tagliarla con le forbici è una follia, mai vista una cosa del genere, mai vista. Io sapevo quello, che si andava al centro e te la davano più piccola, poi se serve farla di nuovo più grande ti danno l'adattatore, no? Una cornicetta, no? Già lo sai. C'è solo le forbici, quella andava licenziata in tronco, mi. Ma cosa qui è una che va buona per cosa sua, insieme ad un ragazzo. E poi c'era anche un'altra donna che stava bisticciando con questo ragazzo, chissà che cosa mi avevo combinato. Dunque qualche problema gli avevo combinato, non so che cosa, però stavano bisticciando. Per dire, nel frattempo questa ragazza ha tagliato la mia scheda, ha tagliato, io pensavo di risolvere il problema, ma anche perché mi ha detto Antonello, mi ha detto Gianni, mi ha detto Antonello, vai via Coso, in via Fattori, che c'è quella ragazza che la taglia e se la piazza, come ha fatto per me. Allora me l'ha tagliata, però me l'ha rovinata la scheda, per dire, no? Sono dovuto andare per forza al centro volo a fondo di Città Mercato, sono dovuto andare. E in caso ho voluto che sono andato la mattina e non c'era la linea, non c'era, perché stava fanno tramite computer dentro, no? Se la fanno. E sono dovuto ritornare la sera invece la linea era ritornata e me l'hanno fatta tranquillamente, con 10 euro. Eia. Poi adesso tutte micro SIM per gli smartphone, tutte micro SIM, addirittura non so se Huawei adesso col casino di Trump non sa come andrà a finire, aveva brevettato, insomma fabbricato una SIM ancora più piccola della micro SIM, e figurati che poca compatibilità. No, ho detto una fesseria, non la SIM, la micro SD volevo dire, io. Ne hanno fatto una ancora più piccola della micro SD, è una scheda di memoria. Figuriamoci, no, io questa addirittura l'avevo messa anche per un paio di giorni, me l'avevo messa nel tablet, siccome il tablet ci sta dentro un borsello, ci sta, no? Ma è un tablet lungo 25 cm per 15, una cosa del genere. E ci sta dentro il bottello. Ma ho voluto solo provare, siccome funziona anche il telefono, lì è col tablet, che poi tra l'altro io lì ho messo quella applicazione Midland, CBTalk, no? Ho messo lì, in quella, poi era troppo pesante a portarmi quello, ma l'ho tenuta solo 2 giorni, niente di più, era il gusto di averlo così, ho già. E dunque non. Poi non l'ho tolta e l'ho messo nello smartphone, adesso ce ne ho tutti e due i numeri nello smartphone. Io ne ho due di smartphone, ma ne uso uno solo. Uno l'ho abbandonato, è nuovo, è più nuovo di quello che ho comprato nuovo, figurati. E io ne ho tre, se vuoi immaginare. Adesso uno lo sta usando mia moglie, lo sta usando. Nonostante che lì ce l'ha lo stesso, non è che non ce l'ha, però lo sta usando per altre cose, dai. Lo sta usando, agganciato alla linea di ADSL di casa, e funziona benissimo lo stesso, non ci sono problemi. Funziona tranquillamente, no, non c'è problema. Anche se non c'è la scheda lì, perché la scheda è stata tolta, ma la scheda ce l'ha nel suo telefonino, per cui va bene lo stesso. Ma te lo vedi, le giornate come stanno diventando corte adesso? No, è già buio, quasi buio adesso, sono appena le 8, è quasi buio. È vero, non ce l'ho accorto anch'io, prima alle 9 c'era ancora luce. Anche alle 9 e mezzo, se per quello, proprio in pieno maggio e giugno, anche alle 9 e mezzo ancora c'è la luce. E vabbè, purtroppo è così. adesso fra un po', fra qualche mese, quando è a ottobre, mi sembra cambiano l'orario, lo cambieranno di nuovo e dunque sarà ancora peggio. Paga vero, prendiamo la vita come viene. Tanto non possiamo cambiare, la natura è quella, c'è poco da fare. A un certo punto poi diventa più buio, c'è poco da fare, quando andiamo incontro all'autunno. Beh certo, è ovvio, anzi domani piove, tra l'altro, se non piove addirittura da stanotte anche, però stando alle previsioni domani dovrebbe piovere, per cui ci sarà qualche problemino anche, perché quando piove si balla e abbassa la temperatura un po' e si sta meglio, perché con questo caldo ormai non se ne può più, troppo caldo, per carità. Anche se non è che mi dà fastidio, però a me mi dà fastidio, non il caldo, l'umidità mi dà fastidio, perché anche senza fare niente, seduto da una parte e tu sugli, addirittura la mattina quando mi faccio la doccia, non faccio il tempo a uscire dalla parte che sto già sudando di nuovo, ma non è possibile, ragazzi. È tremendo, il caldo è tremendo, veramente. A chi lo dici, a me succede la stessa cosa. Io l'altro giorno ho fatta fredda la doccia senza acqua calda. Beh, sono uscito fuori, come mi sono asciugato stavo già sudando. Basta un movimento e asciugo. Sì, è così. No, ma si dice invece che quando te la fai proprio fredda, completamente fredda, sudi di più. Mentre invece te la fai tiepida e dovresti sudare di meno. Così dicono, poi se è vero non lo so. Sì, ma con quel caldo andava meglio fredda, giuro, te lo assicuro. Ma comunque è così, non c'è niente da fare. Quando c'è caldo si sente troppo e basta. Ma adesso andiamo incontro al tempo più fresco, per cui dovrebbe migliorare la situazione, almeno per quanto riguarda il caldo. Poi però peggiora in quanto a giornate, nel senso che fa buio presto, è buio, arriva il giorno che alle 5 la sera è già buio, ma che dai, che brutto. Sì, appunto. Vabbè, cosa vuoi fare? Questa è la vita. Meglio vedere buio, luce, sole, caldo, freddo, vuol dire che siamo vivi. Beh, quello già è vero, vabbè, tu la gamba come stai? Il piede, voglio dire. Il piede è guarito, praticamente se ti dico come è successo non ci credo. Allora, la mia dottoressa è andata in pensione, è entrata un'altra dottoressa al posto della mia dottoressa. E io per non stare ad andare lontano e cose mi ho tenuto la stessa, quella che è entrata al posto della mia, no? Ho fatto la domanda e ho tenuto quella. Beh, quando abbiamo parlato, che gli ho parlato della mia ulcera e cose, ho detto, quanti mesi ce l'ha? Mesi? Ce l'ho 4 anni. No, non è possibile, dice. L'ulcera non può durare così tanto. Ha preso e mi ha detto, si metta questo spray. Ma dato questo spray, in 2 settimane si stava chiudendo, c'erano già le croste. Caspita, figurati. No, pensavo, ho durato un attimo, perché sentivo, sta piovendo, sta piovendo anche forte. Ma davvero? Stavo a grugare anche voi. Sta piovendo forte qua già. E infatti sentivo il rumore della pioggia. Sentivo, siccome c'è la porta aperta, la porta finestra aperta, la zanzariera, no? Eccetera, con la persiana chiusa. Però sentivo il rumore, ho fatto, ma che stai piovendo? Perché in un buon momento mi era sembrata una macchina che si era fermata sotto la finestra, invece no, ho guardato se sta piovendo, è abbastanza anche. Mi adesso abbiamo messo un'offerta, gentile cliente, puoi avere lo smartphone Samsung Galaxy A50 a soli 6,99 € al mese per 30 mesi e 0 anticipo, salvo esaurimento scorte. Valenza minima 24 mesi, l'offerta scade tra pochi giorni, cosa aspetti? Vuoi che mi occupi un altro telefono? Oh, basta adesso, non mi occupi più di telefono. No, assolutamente. Questo è nuovo, tra l'altro, quello che ho io è nuovo. Questa che ce l'ho da aprile, dal giorno del mio compleanno, dal 29 aprile. Questo me l'aveva regalato un altro nuovo mia figlia. Per cui, non... Ma telefonata, non ne voglio più telefoni lunghi, tanto sono, a me mi serve per telefonare, basta, non mi serve per altro. Sì, vabbè, leggo magari anche le notizie, perché mi arrivano le notizie dello sport, del calcio, eccetera. Ma mi va bene lo stesso, ma andava bene già quello che avevo prima, che poi ce l'ho sempre dell'altro, vabbè, l'ho dato a mia moglie, se l'ho preso lì e lo uso per lavoro, eccetera. Mentre invece il suo se lo utilizza per altre cose ancora. Però non. Il telefono va bene ai ragazzi, ai giovani, ad esempio belli. Ah, ma a me cosa me ne frega a me? A me mi va bene così come. La biocco. Sta piovendo, Marco. Eia, io mi sto bioccando invece. Quello perché hai appena pranzato. Giulio, quella è la nuvola dei punti, qua è tutto asciutto, non ha piovuto per niente. Già arriva, tra un po' arriva lì. Adesso sta transitando lungo strada, adesso è in viaggio. È la nuvoletta dei pantuzzi. E allora, tra un po' più perché lì vedrai. Sì, per quello io adesso scendo già a portare il cane, perché sennò poi se piove è un casino, eh. Vabbè, io vi saluto, grazie per il QSO, fatevi sentire, io accendo anche domani, vediamo un po' se c'è gente, se no pazienza. Ok, d'accordo, sì, anch'io chiudo. Ciao Gianni, salutoni, ci sentiamo, dai, adesso telefono a mia figlia perché è andata in palestra e è voluta andare a piedi oggi, ma non me l'ha fatto qua. Adesso il telefono se devo andare a prenderla, anziché andare con la macchina, è andata a piedi. La palestra è lì, nei pressi del fornitore degli impulsi. Ma che ne mangi? Adesso le telefono così almeno vado io a prenderla, perché sta piovendo. Ciao Marco, ci sentiamo, alle prossime, a domani, ciao! Ciao Gianni, ciao Giulio, dai, ci sentiamo appena possibile. Ok, buona serata, buon tutto, ciao. Ciao Luca, se l'ascolto ancora.